innanzitutto chi vuole sedersi davanti, passare un po' a scalare, magari stiamo più comodi. E poi vi vorremmo chiedere di non fumare in maniera esagerata, perché comunque ci sono anche un po' di bambini, insomma non è il caso di affumicarli con troppe sigarette. Una cosa dosata, diciamo, neanche il divieto, una cosa a criterio, insomma. E niente, introduco un po' l'iniziativa. Io sarò la moderatrice dell'iniziativa di questo dibattito, e, perché abbiamo deciso di dargli un'impostazione abbastanza ordinata, speriamo che questo possa favorire il dibattito. Abbiamo proposto, cioè vi proponiamo un metodo che speriamo condiviso di interventi, di un primo giro di interventi della durata di più o meno 15 minuti massimo, perché ci sono diverse realtà che partecipano al dibattito e vogliono condividere la loro esperienza di lotta, e dopodiché ci apriamo alle domande e a eventuali riflessioni. Chiaramente qua ci sono molte più realtà di lotta di quelle che sono invitate, ci sono compagni e compagne che animano diverse battaglie e ci piacerebbe che si sentissero liberi di intervenire in qualsiasi momento, insomma, nei temi che vogliamo trattare insieme. E a parte magari il titolo un po' pretenzioso e altisonante, ovvero Sentieri di guerra, in realtà ci interessava ragionare insieme su tre concetti fondamentali, che sono quello di territorio, ossia come lo intendiamo a livello fisico, ma anche a livello di, soprattutto di relazioni che possiamo mettere in campo dove viviamo e dove lottiamo quotidianamente, e il tema dell'indipendenza delle lotte, e chiaramente con uno sguardo verso la costruzione di percorsi di autonomia e di anticapitalismo in giro per l'Italia e in questo caso anche per il mondo. Abbiamo invitato diversi compagni, alcuni che partecipano e animano le lotte in Val di Susa, però sappiamo anche che tanti compagni e compagne anche qui di Roma, insomma, hanno un rapporto continuativo con la valle, quindi diciamo che questa battaglia piuttosto condivisa sarà uno dei centri più importanti del nostro dibattito. Poi abbiamo dei compagni che vengono dalle lotte nella zona del Monte Amiata, che ci racconteranno un po' la loro battaglia e anche insomma, il processo organizzativo aggregativo che hanno portato avanti. E ci sono diversi compagni e compagne che a Napoli e dintorni lottano per la difesa dell'ambiente, soprattutto contro le discariche e insomma il trattamento assurdo dei rifiuti che in quella zona avviene, e non solo, immagino. E abbiamo anche insomma dei compagni che lottano qui a Roma, in particolare il laboratorio politico che gravita intorno al cinodromo, e noi che veniamo dall'esperienza di lotta in Messico, che ovviamente tutti sappiamo essere un laboratorio sociale e politico molto forte a livello di conflitto e di produzione di alternativa da parecchi anni a questa parte, e che insomma ci andava di condividere con voi anche un po' le nostre esperienze, le nostre riflessioni rispetto a quelle lotte che comunque partecipiamo vivendo lì. E abbiamo quindi pensato, per facilitare il dibattito, di farci alcune domande generatrici, diciamo così, che sono quelle che vedete appese lì, perché magari possono aiutare sia a non perdere il filo degli interventi che magari a altri contributi, perché ripeto, qua siamo tanti e tante, le lotte che portiamo avanti sono parecchie, che sono appunto qual è il tuo territorio, inteso come dicevo prima, su quanto ha a che fare anche la definizione territorio con un'istanza comune che molto spesso è legata alle lotte che portiamo avanti, più che a una definizione geografica o non lo so, lotta ambientale tanto differente dalla lotta cittadina, no? Il territorio è un concetto molto più ampio, lo sappiamo bene, lo agiamo e lo proponiamo al dibattito pubblico da anni, quindi intorno a questo, e che ci serve anche un po' per definire però anche nello specifico le lotte che vari compagni e compagne che parleranno portano avanti. E poi la seconda domanda, che è come è cominciato a lottare e con chi, perché è importante anche confrontarsi sul discorso aggregativo, cioè come ci si ritrova e come si costruisce un linguaggio comune all'interno delle lotte, per poi arrivare chiaramente a quali pratiche vengono portate avanti dalle differenti lotte territoriali, no? E l'altra domanda è invece come si prendono decisioni nella tua lotta, perché ci sembra molto interessante che venga fuori anche l'aspetto della presa di parola, della riflessione comune, appunto della presa di decisioni, no? Quindi chiaramente per tutti noi il luogo di riferimento è l'assemblea, però sappiamo anche che a seconda della lotta poi ci sono diversi gradi in cui ci organizziamo, no? E quindi ci interessa anche mettere a confronto questo passaggio che riteniamo importante. Poi quali forme di lotta, che chiaramente ha a che fare con le pratiche reali e più disparate che mettiamo in campo quando decidiamo che ci opponiamo in maniera ferma a un progetto che ci impone il capitalismo, qualunque esso sia, in qualunque latitudine esso si dia. E l'ultima domanda, che quella è un po' più, diciamo, generica e apre alle riflessioni, che abbiamo chiamato dall'autorganizzazione all'autonomia: come fare? Nel senso, chiaramente non ci sono risposte chiuse a questa domanda, come neanche alle altre, però ci interessava un po' muoverci intorno a questi argomenti per non solo narrare le singole lotte che magari vogliamo portare sul tavolo oggi, ma anche cominciare a ragionare su quali affinità, quali differenze, quali punti critici magari affrontiamo nella quotidianità delle lotte, per cercare insieme, no, di ragionare, perché no, magari anche di farsi influenzare dalle differenze che comunque sono parte di un movimento molto più ampio, no? E quindi ripeto, io sarò un po' quella che rompe le scatole con il tempo, eccetera, eccetera, e anche quella che raccoglie gli interventi. Quindi se nell'andare avanti del dibattito ci sono interventi che si vogliono segnare, senza problema, domande, interventi, insomma qualsiasi apportazione io lo segno, e niente, più o meno questo. Passo la parola a Fabio. Vabbè, avete scoperto il mio nome vero? Comunque in realtà mi conosco più come Fazio, e sono un compagno del Nodo Solidale, vivo a Messico da ormai 5 anni quasi, e con il collettivo abbiamo attivato dei percorsi in Messico da 4 anni. Ebbene, questa serata innanzitutto è bene ricordare pure che da un lato è un momento di informazione del lavoro che si porta avanti in Messico. Infatti dopo questo dibattito ci sarà un video sui progetti che il Nodo Solidale, la piattaforma pirata, ovvero lo spazio di coordinazione con altri collettivi, portiamo avanti proprio su quel territorio. E dopodiché seguirà un concerto di Lengua Alerta, che è un compagno messicano che canta reggae, rap, insomma questo stile così, e il concerto è benefit per i progetti della piattaforma pirata. E io cercherò in questo momento di fare in qualche modo un'introduzione, non voglio dire teorica perché mi sembrerebbe eccessivo, però anche fissare delle definizioni, e fissarle a partire da quella che è stata dall'analisi che abbiamo acquisito nella pratica delle lotte in Messico. Dopodiché, se ci sarà un altro po' di tempo, affronteremo magari su degli esempi specifici delle lotte territoriali in Messico, perché il Messico è molto grande, è 7 volte l'Italia, con territori vastissimi, e quindi con lotte specifiche molto diverse, di cui il laboratorio di punta in termini di autonomia, autogoverno, difesa del territorio e proposta di un'alternativa è senza dubbio il territorio zapatista in Chiapas, ed è anche forse il più famoso. Però in realtà la realtà messicana è variegata e multiforme, e quindi a secondo poi degli interventi dei compagni cercheremo di trovare dei paralleli o comunque delle differenze, e perché no delle proposte per superare dei blocchi o dei problemi politici e tecnici che incontrano i nostri movimenti nel sviluppare le lotte territoriali. L'altra cosa che mi piacerebbe appunto è sviscerare anche quelli che sono i problemi che incontriamo come compagni quando facciamo le lotte territoriali, quando ci affianchiamo nella diversità, quando abbiamo a che fare con gente che non è politicizzata e quando abbiamo a che fare con altri compagni, quindi politicizzati, ma che non sono nella nostra corrente, nel nostro gruppo, nel nostro posto. Perché no, cerchiamo di evitare la retorica del stiamo facendo già la rivoluzione, perché la rivoluzione è molto lontana e bisogna costruirla con lo sforzo di tutti e tutte. Quindi se vogliamo in qualche modo favorire l'analisi, uscire da qua con delle domande che ci portiamo a casa, invito i compagni e le compagne anche comunque a mostrare i limiti delle nostre lotte, perché da questi limiti apprenderemo a fare il passo successivo. Io comincerei appunto territorio, indipendenza, autonomia. Territorio, la definizione di territorio noi ci piace pensarla spesso come uno spazio vitale comunitario, uno spazio dove una certa comunità si riconosce, riconosce il proprio agire quotidiano, ne fa proprio e si ancora culturalmente in questo spazio vitale. Questo è un territorio, in questi, almeno a nostro avviso, una definizione che in fondo calza dal posto occupato, dal centro sociale, alla comunità indigena dall'altro lato del mondo. Nel senso, però spesso quello che mi piace soffermare nell'analisi, perché poi più che l'analisi sono delle riflessioni che ci siamo fatti pure noi l'altro giorno quando abbiamo buttato giù queste domande, ci siamo detti che vogliamo sapere di questo dibattito. Ci siamo detti in fondo un territorio, i territori per cui lottiamo e spesso i territori in cui noi siamo messi anche in gioco in Messico sono territori definiti là diciamo in maniera ancestrale da una comunità. Ovviamente la caratteristica di un territorio ancestrale di una comunità a volte non è la stessa definizione che si potrebbe dare un quartiere o che si potrebbe dare un centro sociale, però la cosa che sì, c'è in comune nella definizione di un territorio è che questa definizione la dà la comunità resistente. Molto spesso noi riconosciamo la geografia che ci circonda come propria quando ce la vogliono sottrarre, quando la vediamo minacciata. Come molto spesso, purtroppo magari, certi legami d'amicizia o di parentali, no? Diventano più forti quando quella persona cara è attaccata, è minacciata, sta soffrendo. E così spesso, di fronte alla percezione del pericolo, o quindi dell'invasione del nemico, in questo caso il capitale, sul nostro territorio, noi riconosciamo quel territorio come nostro. Molto spesso una montagna, un parchetto, noi non è che usciamo ogni mattina da casa e diciamo oh, questo parchetto è proprio il mio territorio. Nel senso, poi ci sono situazioni specifiche in cui uno sente questa territorialità dentro di sé. Però molto spesso no, là c'è il parchetto, là c'è la fontanella, attraversa la strada, va più all'autobus, ciao. Cioè non è che ogni giorno... Però il giorno che vogliono cementificare quel parchetto, o magari semplicemente il giorno che tu su quel parchetto lo vedi tutto sbracato, vedi il degrado, molto spesso non è neanche il capitale a fare scempio dei territori che ci circondano, tu lo senti come una ferita o percepisci questa aggressione. Ora, trasportando questo in termini politici, abbiamo detto che il territorio è lo spazio vitale di una comunità, dove si sente a casa appunto e dove si riconosce, dove esercita, dove mette in pratica la propria cultura. Dico mette in pratica la propria cultura perché spesso in Messico parte di un territorio è una montagna o una grotta dove vanno a mettere le candele e a fare la preghiera della pioggia. Questo per citare l'esempio che suona più folclorico e più lontano da noi, ma è anche il territorio dove magari c'è sta la scuola dei bambini e c'è sta l'orticello. Ovviamente stiamo parlando di un territorio rurale. Però insomma, quando si percepisce questo pericolo e quando ci si organizza per definire questo territorio, ecco che il territorio assume quei connotati che ci accomunano dal Messico a qua. Quando la comunità resistente riscopre nei profili del territorio, nel paesaggio che ci circonda, qualcosa di proprio, di nostro, e quindi neanche più individuale, quindi neanche più la riappropriazione egoistica, quanto il bene comune, cioè questo è nostro, non è mio, è nostro. Questo passaggio spesso avviene appunto nella fase di resistenza, quindi io una definizione che mi piace dare del territorio è proprio questo, lo spazio vitale di una comunità resistente. Io la riflessione è venuta un po' spontanea perché le stesse comunità indigene dicono ma questo è un territorio ancestrale, cioè noi ce l'abbiamo da 2000 anni, però per quale motivo hanno la necessità di ribadire che il territorio ancestrale è proprio da 2000 anni? È di loro da 2000 anni perché? Perché da 500 anni sono arrivati i conquistatori, sono arrivati gli invasori, sono entrati in quel territorio a usurparlo e a quindi a metterlo a rendita dei ricchi di sempre. E in quel senso definire un territorio ancestrale per le comunità indigene significa fare un atto di resistenza, perché sennò di fronte a chi dovrebbero definire un territorio ancestrale se non ci fosse il pericolo o se non ci fosse l'invasione vera e propria come è tale nelle comunità indigene? Allo stesso modo io sono andato, non conosco la Val di Susa, cioè sono andato per 2 giorni perché dicevo no, ci devo andare per forza, e in effetti ci sono state molte le situazioni che in positivo ricordano certe esperienze di lotta, certe immagini che abbiamo vissuto nelle lotte in Messico. E fra le tante ho visto un manifesto che diceva, non mi ricordo, contro il treno devastatore, qualcosa così, a difesa della libera montagna. Allora, io ho pensato, questa è un'immagine molto bella, la libera montagna, cioè comunque questa percezione della natura come soggetto vivo, e là è la madre terra, no? È la madre natura, è qualcosa che ci accoglie e ci riceve quando moriremo, è qualcosa che ci dà i frutti che poi mangiamo, cioè è parte, è ciò che ci ha partorito. Allora, questa immagine è molto bella, però anche molto romantica. Quello che mi sono chiesto io è, ma da quando in Valle di Susa dicono libera montagna? 30 anni fa, prima del progetto di morte della TAV, la chiamavano libera montagna? Cioè, riconoscevano in questo territorio, in questi profili, uno spazio di libertà? O forse la chiamavano così quando c'erano i partigiani che combattevano contro i nazisti? Allora, io vi lancio la domanda, non so se c'è una risposta a questo, però l'idea che ho io è che questa definizione di libertà, questa definizione quindi di territorio in quel caso, questo riconoscersi nella libera montagna, viene data proprio dalla lotta. E questo è importantissimo, perché vuol dire che quando andremo a costituire, quando costituiamo i nostri territori liberi, le nostre, quando mettiamo in pratica la nostra libertà, definiamo un territorio. Per cui il primo territorio libero è il territorio in lotta. Dopodiché mi piace sottolineare un'altra cosa che ci dà il territorio, e che questo in Messico è molto evidente. In Messico, diciamo, gran parte del movimento, soprattutto quello che elabora le strategie più a lungo termine e sicuramente alternative, no? I progetti di autonomia come quello zapatista, ma come altri, sono sicuramente i movimenti dei contadini. È interessante vedere come in Messico, però anche in altre parti del mondo, si è passato il contadino dalla lotta per la terra a quella per il territorio. C'è un passaggio qualitativo, perché per il contadino la terra in qualche modo è, in questo, nelle lotte precedenti, no? Nelle lotte fino a 20 anni fa, la terra è il mezzo di produzione. La terra è il mezzo di produzione, da cui tu ottieni il raccolto e lo rivendi. Cioè, quindi la terra è come valore di cambio. La terra come mezzo di produzione. Il territorio no. Il territorio è il valore d'uso. Il territorio è dove vivi. Cioè, quindi il territorio non è solo il prodotto del raccolto. Il territorio è l'insieme degli elementi vitali della tua comunità. Quindi la difesa del territorio non è solo la difesa dei mezzi di produzione. L'occupazione di terre non è solo quindi la rioccupazione, la riappropriazione dei mezzi di produzione. È ribadire la tua forma di vita. Quindi è un passaggio qualitativamente superiore, dove per esempio il contadino non è più contadino, è indigeno. Eppure gli indigeni di oggi sono gli stessi contadini, campesini, state 30 anni fa, nel senso non è che 30 anni fa non erano sozzile, se ne erano maya, e poi all'improvviso sono diventati tutti maya, tutti aimara, tutti quechua. No, è che ovviamente in questo processo di passare dalla terra alla difesa del territorio, e quindi della propria spiritualità, della propria cultura, della grotta dove vado a pregare, del mais dove lo raccolgo e dove faccio la mia festa, cioè la difesa di tutto ciò definisce il mio territorio, definisce la mia cultura e quindi definisce la mia lotta, dove comunque è per la riappropriazione dei mezzi di produzione e la socializzazione dei mezzi di produzione, perché senza quello non c'è rivoluzione, se no continuiamo a fare i ricchi e i poveri. Però è anche per la mia forma di vedere il mondo, in questo caso in Messico, una forma compatibile nei migliori dei casi, non sempre, nelle lotte diciamo più squisitamente autonome, è la forma da contrapporre al modello di vita del capitale, che è quello del consumismo, che è quello del lavorare alienati e di consumare tutto ciò che produciamo. Più guadagniamo, più spendiamo, cioè noi continuiamo a avere dei salari che possono anche crescere, ora non è neanche più così perché vanno in picchiata, però comunque dobbiamo consumare, mentre il modello di vita che sviluppano i compagni sul territorio, le compagne sul territorio, che adesso stanno proponendo le comunità indigene, è un modello di vita necessariamente basato sull'armonia degli elementi. Senza questa armonia il territorio svanisce, perché non puoi pensare a un modello che non sia sostenibile per loro se è un modello che butta giù la grotta dove vanno comunque a pregare per far venire le piogge. Quindi in questo senso la riscoperta del territorio è un passaggio di lotta qualitativamente superiore. E non affondo oltre, già mi segnalano, semplicemente volevo far notare un'altra piccola cosa prima di passare poi agli esempi pratici dei compagni, delle compagne qui presenti, poi noi riprenderemo la parola successivamente. È quanto siamo passati negli ultimi anni, cioè la difesa del territorio, o in generale quella che chiamiamo le lotte ambientali, E dobbiamo, innanzitutto io penso, acquisire più sicurezza o comunque più determinazione in senso politico quando stiamo difendendo il nostro territorio. Perché la difesa del territorio oggi è una trincea, forse la prima, forse una delle più importanti, o sicuramente una lotta strutturale contro il capitalismo. Cioè dobbiamo uscire dalla logica della lotta ambientale, perché oggi quella che una volta chiamavamo lotta ambientale è una lotta territoriale anticapitalista. Allora, non, io non sono né un economista né sono un teorico, però insomma abbiamo 5 minuti, cerchiamo di fare un quadro della situazione. Il capitalismo, 4, ok. Ce la posso fare? Allora, mi dico sulle maniche. Allora, no, però io me lo so chiesto spesso, perché come compagni e compagne, quando ci immergiamo in queste lotte e in questa fase così, dobbiamo renderci conto che il capitalismo si è prodotto questa crisi e perché sta in crisi, ma non perché vive una crisi di produzione o di sovrapproduzione. Cioè non è una delle crisi cicliche del capitalismo in cui si devono riaggiustare i mercati, insomma, via dicendo, poi senza approfondire troppo questo discorso. Quello che percepiamo tutti, senza essere gli esperti, è che la crisi è sistemica. Cioè c'è una crisi finanziaria, e ce l'hanno spiegata, ce lo spiegherà Fumagalli, insomma qualcun altro non va, spiego io. Poi c'è sta una crisi, c'è una crisi del capitale produttivo, cioè c'è una crisi di merci, che devi produrre sempre più merce e c'è bisogno sempre più del mercato, e se c'hai però i salari sempre più bassi, ma chi se compra sta merce? Insomma c'è una saturazione sul mercato. Dopodiché c'è una crisi ambientale, e questo è evidente, non lo possono nascondere, da Kyoto in poi, dico almeno sui media. E dopodiché c'è una crisi di rappresentanza, c'è una crisi della mediazione istituzionale. Lo Stato-Nazione si sta dissolvendo di fronte alla creazione di un grande meccanismo globale di presa di decisioni, dove i politici non contano più un cazzo, fanno gli amministratori delle grandi imprese, delle corporation. E quindi lo Stato-Nazione non serve più niente, tanto le sue politiche di welfare già non esistono, già non è un ammortizzatore sociale, e tutti gli elementi di mediazione già sono inutili. Pensiamo ai partiti, pensiamo ai sindacati, pensiamo alla Chiesa, i grandi strumenti della mediazione fra lo Stato e la gente. Allora, in tutta questa crisi il capitale praticamente non investe più, per farla breve, sul capitale produttivo, cioè sulle fabbriche, la gente e la produzione di merce. Perché? Perché per fare questo investimento tocca averci a che fare con la gente in carne e ossa, e quelli possono essere pure cinesi, vietnamiti, te ne vanno pure lontano, ma dopo un po' si incazzano, si organizzano, cominciano a sabotare la macchina del capitale. E certo, se puoi esternalizzare il lavoro, lo fanno, continuano a farlo, ma il mondo è finito. Cioè, prima o poi, da qualche parte devi ritornare, e sono tantissimi sti stati ancora da sfruttare. Però c'è la gente reale. Questo meccanismo della gente reale che lotta inceppa il capitale. Per cui è molto più sicuro oggi come oggi, bueno, oggi no, fino all'altro ieri, fino a ieri, investire sul capitale finanziario. C'è nessuno. Faccio due scommesse e via, se mi dice bene, se mi dice male, tanti soldi sono finti. Si è creata poi questa bolla di sapone, il capitale finanziario, la cui ricchezza non corrisponde al capitale produttivo, alle merci che ci stanno in circolo, ai soldi che ci stanno in circolo. Però sta scommessa che hanno fatto là è perché noi siamo la crisi, è perché noi che lottiamo. Noi, i vietnamiti, i coreani, i messicani, i sudamericani in generale. È questa nostra resistenza che li ha spinti là. Non solo, in questi termini, che tocca fare ricchezza sulle materie prime. Cioè, se adesso vi fare una passeggiata per America Latina, e poi non vi dico di andare a leggere l'accumulazione originaria del capitale di Marx del 1500, dove parla del saccheggio che si fa dell'America Latina, o dell'America in generale, soprattutto America Latina, su miniere, l'oro, le piantagioni, il legname. Beh, sono le stesse ricchezze aggiunte al petrolio, al gas e ad altri minerali per l'alta tecnologia che si stanno espropriando oggi, e si stanno facendo con gli stessi metodi barbari e con gli stessi ritmi di lavoro disumani di 400 anni fa, di quando c'era la schiavitù. E tanto quei salari da fame che pagano sono solo sinonimo di una schiavitù. Quindi questa guerra di conquista è una guerra reale. Il neoliberismo ha imposto una nuova colonizzazione del mondo nei territori, perché dov'è che si fanno le dighe, dov'è che si scavano le miniere, dov'è che si abbattono gli alberi, dov'è che si fanno le grandi opere come la Transamazzonica o come la carretera panamericana? Si fanno nei territori indigeni, in quei territori che le popolazioni locali hanno preservato e lasciato intatti. Perché? Perché comunque figli di una cultura che preserva l'armonia con l'ambiente, la relazione fra l'uomo e l'ambiente, e che adesso sono attaccati ed espropriati, perché là c'è una produzione di ricchezza. C'è una produzione di ricchezza, di materie prime, e le grandi opere, su cui non mi soffermo, ma sono l'elemento con cui reinvestire, sono la privatizzazione dei soldi pubblici, del denaro pubblico, per reinvestirlo e generare lavoro che poi viene frammentato in subappalti e di lavoro precario che ci tocca poi a noi andare a fare. Quindi in questo senso, mi fermo perché vedo una manina che fa così, e insomma questo era un po' il quadro teorico, insomma, comunque d'analisi che ci sembra che possa essere molto comune dal Messico ai territori attaccati qui. Dopodiché passiamo la parola un po' anche a degli esempi un po' più concreti e d'analisi, quindi passo la parola alla compagna Laura. Ciao a tutti. Sono Laura, il 50% delle persone che sono in questa sala sono state a casa mia, quindi l'altro 50%. L'altro 50% quando vuole venire in valle ha solo da chiedere l'indirizzo. Allora, la Val Susa, non so se voi lo sapete, ma ha già la linea Torino-Lione, quindi forse non lo sapevate, ma è stata costruita nel 1897, quindi già ce l'abbiamo. E come diceva giustamente lui, la valle fino a 30 anni fa era suddivisa in montanari, coloro che vivevano in montagna, avevano le bestie, le mucche, eccetera, contadini, quelli che vivevano a metà valle, e infine quelli che avevano venduto i terreni per andare a lavorare alla Fiat. E questa era la situazione di 30 anni fa. Più o meno 30 anni fa, 25 anni fa, decidono di costruire l'autostrada. Allora si forma un primo gruppo di movimento contro questa devastazione, ma è un gruppo molto piccolo, ci sono 10-15 persone che si radunano e che protestano. L'autostrada viene fatta. Subito dopo, anzi quasi in concomitanza, dicono: beh, ma abbiamo fatto l'autostrada, facciamo anche l'elettrodotto. No, scusate, l'elettrodotto no. E subito dopo l'elettrodotto è stato incominciato, ma non è stato finito. Pochi anni dopo, quindi arriviamo veramente a 22 anni fa, ci dicono: beh, ma visto che c'è l'autostrada, visto che c'è l'elettrodotto, facciamo un'alta velocità. A questo punto la gente incomincia a ribellarsi. Come diceva effettivamente lui, fino a quel momento la valle era stata abbastanza separata, no? L'alta valle, la media valle e la bassa valle aveva interessi diversi e non comunicava. Questo fatto di avere questa nuova devastazione, uno dice: ma scusa, abbiamo già dato, cioè nel punto più largo la nostra valle, che è di 15 chilometri, ci fate veramente passare di tutto. L'alta velocità no, oltretutto avete già una ferrovia, basta, no? Rimodernate quella che c'è, non è necessario farne una nuova. Sono passati 22 anni da allora e penso ne passeranno altri 22, cioè noi non è che abbiamo fretta, siamo lì. E in questi 22 anni la popolazione ha preso coscienza della cosa, ma non solo. Cioè il miracolo della Val Susa, secondo me, quello che viene portato sul palmo di mano in serate come questa, non è tanto il fatto che la gente ha cominciato a ribellarsi, a fare le barricate, queste cose qua. E il fatto ha preso coscienza che non va bene, che non è giusto e che quindi dire di no è possibile, no? Noi abitiamo lì, non abbiamo nessuna fretta, sono loro che devono venire da noi. Noi facciamo le barricate, noi cerchiamo in tutti i modi di fermarli e ovviamente ce la faremo, su questo non ci sono dubbi. Ma non sono opere necessarie. Allora il messaggio che noi abbiamo cominciato a portare in giro, come io stasera o altra gente che adesso girerà per l'Italia, è che ribellarsi è possibile, che non è il famoso nimbus, cioè ognuno deve guardare il suo orto, perché il fatto che non passino le merci, le famose mozzarella ai 400 all'ora, che non passino dalla Val di Susa, non devono proprio passare, perché è il concetto che è sbagliato. Quindi non passeranno dalla Val di Susa e non passeranno neanche da un'altra parte, punto. Poi che abbiano scelto la nostra valle perché, come dicono, è un corridoio. Ah sì, non si chiama più Val di Susa, si chiama corridoio numero 5. Insomma, è ancora da vedere. Ora, come voi sapete, come chi è stato su quest'estate avrà visto che il nostro sistema di prendere le decisioni e di comunicare sono delle assemblee. Se sono molto grandi le chiamiamo assemblee pubbliche e avvengono nelle pubbliche piazze. Se sono più ristrette, cioè, la valle è divisa in comitati. Ogni paese ha il proprio comitato, si riunisce un giorno alla settimana se riesce e poi i rappresentanti del comitato vanno nei coordinamenti dei comitati a dire quello che il comitato ha deciso. Tutti insieme poi si decide il da farsi. Non è esattamente un sistema orizzontale, perché comunque anche lì ci sono le decisioni, poi vengono prese a seconda, molte volte a seconda di quello che succede il giorno prima. Però comunque il sistema organizzativo è quello, si cerca di mettere d'accordo tutti. Tutti che sono tanti, perché appunto dal gruppo iniziale di 15-20 persone di 25 anni fa, adesso abbiamo in valle un 52 comitati. Quindi quando ci si ritrova tutti e ogni comitato manda anche solo una persona, sono 50 persone che si devono mettere d'accordo e ci divertiamo tantissimo in queste assemblee. Niente, la nostra lotta va avanti, voi avrete seguito anche recentemente. Loro ci provano, noi sappiamo che comunque non passeranno, perché come vi dicevo prima è una lotta sulle lunghe lunghezze, cioè su lunghi tempi. Non hanno i soldi, non hanno la capacità proprio di lavorare sul territorio e poi soprattutto arriva l'inverno. In Val di Susa la temperatura scende sotto i 20 gradi. E quindi noi aspettiamo che vengano a trivellare a meno 20, ci devono stare loro, ci dobbiamo stare noi, ci devono stare i militari, insomma, facciano quello che vogliono. Come diceva Nicoletta un paio di giorni fa per radio, diceva saremo noi a decidere quando tagliare le reti. Per il resto, secondo me la cosa veramente importante della Val di Susa è questa, è aver capito, ma non solo io o quelli della mia generazione, ma le persone che adesso hanno 70-80 anni hanno capito che non è importante solo salvaguardare il territorio della Val Susa, ma che proprio il sistema è sbagliato e bisogna bloccare questa cosa dovunque, dove si presenta bisogna bloccarlo. Tant'è vero che noi abbiamo i nostri, chiamiamoli anziani, che partono, prendono i pullman e vanno a manifestare con le loro bandiere dove c'è bisogno, quindi sono stati a Tersigno, sono andati nel Veneto, sono andati a manifestare, se le sono prese. La notte del 27 giugno noi avevamo 300 anziani da portare su per le montagne dove, mentre questi ci gasavano, ma siamo tornati tutti a casa, quindi... Secondo me la forza della comunità è quello, che tutti sanno cosa stanno facendo. Noi si lotta tutti insieme, non si lotta per qualcuno o per qualcosa. E finché ci sarà questa mentalità, secondo me loro non hanno nessuna possibilità di cavarsela. Certo, i metodi li hanno. Se voi venite adesso in Val Susa vedete che il famoso cantiere ha due reti con tanto di filo spinato sopra e adesso ne stanno facendo un terzo. Se intendono veramente continuare così i prossimi 20 anni tenendo un cantiere in questo modo, io non lo so. Come ripeto, noi abitiamo lì, siamo lì 24 ore su 24. Però appunto adesso, da come la vediamo noi, non è più tanto il problema della TAV, anzi forse il problema della TAV è addirittura superato, è proprio come intendono gestire questi cantieri, come intendono gestire il loro metodo di lavoro, perché se intendono gestire i cantieri o comunque tutte le prossime opere, tutte le prossime cose che decideranno di fare in questo modo, cioè con la polizia e con i militari, secondo me le domande che dobbiamo farci adesso non sono più se l'alta velocità è importante o no, ma decisamente come siamo messi. E questo qua è l'argomento di cui stiamo discutendo in questi giorni, nel il coordinamento di mercoledì era proprio su questo, cioè ma dove stiamo andando? Neanche più tanto perché comunque loro ti attaccano e tu ti difendi, ma dove stiamo andando? Grazie. Passo la parola ai compagni del Monte Amiato. Buonasera, sono Gori Alvaro del Comitato Ambiente Amiata. È un comitato che lotta nel suo territorio da circa 30 anni. Io ecco, vorrei dividere l'intervento in due parti. Una prima parte, diciamo, di informazione e l'altra su quello che si sta facendo per contrastare le lotte che stanno le multinazionali che stanno distruggendo il nostro territorio. E anzi, vi ringrazio e sono molto onorato di essere in mezzo a voi e altrettanto gratificato visto la mia età. Ecco, l'Amiata è un territorio, era una montagna considerata sacra dagli Etruschi ed è uno dei territori più ricchi di risorse naturali e ambientali della Toscana. Ricordiamo, voglio ricordare che la montagna, per fare un quadro un po' del problema, del nostro problema, della situazione, ricordiamo che la montagna dell'Amiata accoglie nel suo seno la più grande riserva idropotabile della Toscana, una riserva di 80 km quadrati, e che coi suoi 50 milioni di metri cubi di acqua potabile annui fornisce acqua in vari territori, tre province della Toscana, l'Alto Lazio, e rappresenta uno dei serbatoi idropotabili più importanti del centro Italia. Ha un abbondante bacino idrotermale che alimenta vari centri termali dei territori circostanti. Le terme di San Filippo, Bagno Vignoni, San Casciano Bagni, Saturnia, Terme di Sorano hanno origine dalle acque dell'Amiata. Inoltre ha un ulteriore acquifero che alimenta i vari bacini idrografici dei fiumi Ombrone, Orcia, Albegna, Paglia, Fiora, Tevere, eccetera. Una miniera di risorse acquifere. E ha anche, però, nel nostro vulcano c'è anche questa risorsa geotermica a basse profondità, sotto le falde acquifere e termali. Ecco, tutta questa bellezza naturale, tutte queste risorse rischiano di essere danneggiate da questo progetto Enel Regione Toscana che con l'appoggio anche delle amministrazioni locali, dobbiamo dire tutte purtroppo amministrate dal PD, stanno distruggendo questo territorio con lo sciagurato progetto di sfruttamento geotermico ad alte entalpie. Entalpie significa con pozzi geotermici estratti a 4-5 mila metri, fino a 4-5 mila metri di profondità, che sta minacciando già da adesso le risorse ansidette, la salute e l'economia, e porterà il nostro territorio al degrado, al sottosviluppo socio-economico. Ora, ecco, volevo un pochino fare un parallelo, ma che c'entra la geotermia con la risorsa acqua? La geotermia e acqua sono incompatibili fra loro, o l'uno o l'altro. Meglio, è una lotta fra utilizzare la risorsa acqua che garantisce il 25-30% dei fabbisogni regionali contro la produzione di 200 megawatt di energia elettrica. In più però dalla parte della geotermia c'è vari milioni di compensazioni ambientali. Si parla di circa 20 milioni di euro derivati da certificati verdi e da soldi pubblici nostri. Ecco, io non lo so, proverei a spiegare questa incompatibilità per comprendere un po' il problema. Anzitutto, ecco, vi faccio un esempio: il nostro vulcano è una groviera, dove sopra la groviera ci sono le falde acquifere e nel sottosuolo e sotto la groviera non c'è uno strato impermeabile, ma c'è uno strato vulcanico formato da vulcaniti in cui c'è un, diciamo, dei canali di collegamento fra le falde acquifere e le falde geotermiche, e il collegamento avviene in questo modo, cioè le variazioni di pressione, i gas geotermici possono risalire dai fori della groviera, dei camini vulcanici, e il ricarico dell'acqua superficiale discende nel bacino geotermico attraverso gli stessi canali vulcanici oppure attraverso le fessure vulcaniche. Non c'è alcun strato impermeabile come sostiene l'Enel e come sostiene, insomma, i filogeotermici. Oggi, a seguito di vari studi e da misurazione di piezometri che sono state installate sull'amiata, possiamo affermare concretamente che è scomparso 200 metri della falda acquifera. C'è stata una discesa, diciamo, della falda acquifera dai 500 metri dei dati precedenti, che risalgono a uno studio Calamai, peraltro finanziato dall'Enel, e dai 500 metri la falda acquifera si è ridotta a circa 300 metri. Per darvi un esempio, è scomparsa una quantità di acqua pari al lago, diciamo, al lago di Bolsena, 80 km, che ha una superficie di circa 100 km quadrati per 200 metri di profondità. Oggi è inequivocabile che la ricarica dei campi geotermici avviene attraverso l'acqua che discende da queste faglie e risale, i gas geotermici risalgono da camini vulcanici, come ho detto prima. La conclusione evidente dell'indagine piezometrica che è stata recentemente completata ci dà due certezze. Per l'amiata e zone limitrofe si prevede un futuro senza acqua, a meno che non si proceda alla chiusura delle centrali geotermiche. Altra conferma è che lo sfruttamento geotermico sarebbe corresponsabile sia dell'abbassamento del bacino idrico dell'amiata che dell'incremento di arsenico e altri inquinanti nell'acqua potabile. Infatti, le sorgenti più inquinate da questi elementi sono ubicate nel comune di Abbadia Piancastagnaio, Arcidosso, ove esistono i camini vulcanici. Allora, detto questo, penso, per fare un quadro, chiaramente siamo di fronte a un disastro, di fronte al rischio di inquinamento che minacciano non solo la sopravvivenza dell'acquifero, ma anche la stessa salute umana. E, diciamo, le autorità, purtroppo, anziché intervenire sulle cause dell'inquinamento, chiaramente prevalentemente dipendenti dalla geotermia, preferiscono agire sulle conseguenze con l'installazione di costosi abbattitori di arsenico, con risultati non ancora pubblicati. Le autorità purtroppo rispondono nascondendo e mistificando tutti i dati, e queste purtroppo sono le risposte prevalenti delle nostre istituzioni. Pensate che la Regione Toscana ha speso 1 milione di euro per fare studi per giustificare la scomparsa di acqua con la mancata piovosità, le criticità sanitarie con gli stili di vita e con le attività minerarie che sono ormai finite e chiuse da 40 anni. Pensate che basterebbe applicare la legge regionale 38 del 2004, che prevede la realizzazione di zone di rispetto e di protezione intorno alle sorgenti e alle aree di ricarica, non solo alle falde, ma intorno alle aree di ricarica degli acquiferi. Oppure il rispetto delle leggi per il rilascio della via, che prevedono una serie di valutazioni sanitarie, nonché valutazioni complessive delle emissioni e delle ricadute degli inquinanti sul territorio. Questo e quanto succede nella civilissima Toscana. Inoltre occorre tenere presente anche, ecco, per far capire proprio la non convenienza dello sfruttamento geotermico, è che lo stesso sfruttamento dell'energia geotermica ad alta entalpia, cioè quella a bassa profondità, perché esistono varie geotermie, minaccia la stessa sopravvivenza dei fluidi a basse entalpie superficiali, cioè che riteniamo sia la geotermia compatibile e possibile per lo sviluppo del territorio. È possibile e compatibile perché significa sfruttare il vapore geotermico solo ai fini dell'uso del calore, che consente chiaramente lo sviluppo del territorio da attività florovivaistiche, usi civili, usi diciamo di sviluppo sostenibile del territorio. Vi do un dato, insomma, la geotermia ad alta entalpia ha un rendimento del 20%. Lo sfruttamento delle geotermie a bassa entalpia ha un rendimento dell'80%. E non lo so, sul territorio si vuole fare 200 megawatt, il territorio sfrutta solo 4-5 megawatt, necessitano solo 4-5 megawatt. Una conferma di questo pericolo per lo stesso termalismo è lo stesso progetto di riassetto dell'Enel a Piancastagnaio, che ammette l'esaurimento del primo bacino e il potenziamento dello sfruttamento alle basse profondità fino a 4-5 mila metri, che comporteranno rischi maggiori sia per il bacino idrotermale sia per l'idropotabile e logicamente con ulteriori inquinanti anche per la salute. Ora, ecco, la storia delle lotte amiatine è difficile raccontarla in 5 minuti, ecco, dico solo alcune cose, insomma. Noi abbiamo praticato tutte le forme di lotta possibili da 30 anni e abbiamo ottenuto anche qualche successo, grossi successi, insomma. Nel 2000 abbiamo fermato questo progetto Enel che prevedeva 20 centrali da 10 megawatt, da 10-20 megawatt per arrivare al totale di 200. Nel 2002 siamo riusciti a far marcia indietro a tutte le amministrazioni locali e approvare la dismissione controllata della geotermia e la moratoria per nuovi impianti. Però purtroppo, passate le campagne elettorali, rinnovate le amministrazioni, sono ritornato alla carica con un progetto riconvertito, anziché sempre con le solite 200 megawatt, ma anziché 20 centrali troppo impattanti e chiaramente anche così come numero e come presenza nel territorio, sono previste con le nuove tecnologie centrali che possono funzionare fino a 40, 60, 80 megawatt. In più hanno messo sul piatto della bilancia le compensazioni ambientali. E un progetto da 650 milioni di euro con 20 milioni di euro di compensazioni al territorio, briciole. E come capite, insomma, di fronte con la crisi, con i tagli del governo, le amministrazioni locali hanno abboccato. E ora siamo di nuovo in mezzo al guado, insomma, però a differenza della Val di Susa, le amministrazioni purtroppo non sono dalla nostra parte e la lotta si fa molto dura, insomma, perché abbiamo provato tutte le iniziative possibili, petizioni, denunce, manifestazioni, sit-in, ricorsi, non so, osservazioni ai loro piani, però diciamo non si ottiene nulla, siamo di fronte a un muro di gomma. Ecco, qualcosa si è mosso, diciamo, a livello, stiamo cercando di esportare il problema all'esterno, grazie anche al forum che noi abbiamo agevolmente abbiamo aderito di diritto, perché insomma il problema dell'acqua per noi è la madre vita e sacralità, è, insomma sacralità che purtroppo non appartiene, diciamo, più ai nostri politici, ai nostri amministratori, ma che è rimasta forse nella mentalità nostra e perché tramandata da tempo, insomma. Oggi stiamo raccogliendo tutte le solidarietà possibili nazionali per far diventare il problema dell'amiata una vertenza nazionale. Sul territorio stiamo aggregandoci a nuove associazioni per pensare anche a nuove forme di lotta che coinvolgano scuole, giovani, per resistere e non rinunciare a un futuro più dignitoso al nostro territorio e alle nuove generazioni. E continueremo chiaramente a lavorare e a lottare per impedire questa, diciamo, questa subordinazione del territorio e delle istituzioni ai poteri forti che ci fanno subire le scelte delle multinazionali e per promuovere chiaramente progetti di sviluppo durevole e sostenibile per il nostro territorio. Grazie. Non lo so, chiedo all'altro compagno che se vuole aggiungere qualcosa, anche sforando un po', però magari la lotta pure meno conosciuta. Ma il compagno Alvaro, perché così lo chiamo, ha illustrato la situazione. Io vorrei rifarmi alla questione spazio vitale di una comunità resistente. Io ci ho trovato tanto dell'amiata in questa cosa, tanto, perché l'amiata, voi avete capito che ha una sua identità. La montagna richiama una certa identità, no? Di per sé, forse meno, chiama l'identità più di altre realtà, di altre situazioni. Nella campagna ci si perde un po', nella montagna te la dà questa caratteristica, ti senti in parte montanaro, insomma, nel cuore, nell'anima, perché impari a conoscere le stagioni, perché vivi le stagioni, perché vivi la tua realtà, perché quando c'è l'inverno nevica, perché quando c'è il tempo della castagna c'è la castagna e c'è funghi, e quando c'è i ruscelli dell'acqua che circolano. E allora impari ad amarla questo territorio, impari a far sentirtelo tuo, dentro prima di tutto. E io me lo so sentito sempre mio, perché io so ormai 60 anni, ho sempre vissuto nella amiata. Guardate che l'ho fatto anche di scelta di vita, perché avevo la possibilità, vinsi il concorso alle Ferrovie dello Stato e non ci andai. Mia madre me la se l'è legata... Sì, mia madre se la legò a un dito, me la rammenta sempre a 92 anni e mi rammenta sempre questa scelta scellerata che io ho fatto. Ma perché pensavamo alla rivoluzione a quei tempi, pensavamo ad altre cose, e mi proposero di fare a quei tempi il segretario della CGIL. Ma quando la CGIL era CGIL, l'ho fatto come giovane, ma perché mio padre era minatore. Mio padre ha fatto 30 anni di miniera. E io mi ho imparato, dice, ma te che hai fatto da piccino? Invece di fare pane e Nutella, io ho fatto pane con il vino e lo zucchero, perché era parecchio buono, non so se l'hai mai assaggiato, il pane col vino e lo zucchero ci davano, perché non c'era tante altre cose. Pane, vino e zucchero, l'ho mangiato tante volte, e oltre a quello mi imparavano le lotte, perché a 10 anni mio padre andò a occupare per 25 giorni la miniera sotto, perché ci volevano licenziare, che poi... da 300 ce ne licenziarono 150, insomma, però 25 giorni sotto. Io mi ricordo che quando avevo 10 anni lasciavo la scuola, scrivevo le lettere a mio padre, le mettevo nel vagone che andava sotto, e mio padre era sotto e mi scriveva come se fosse lontano, e ci scrivevamo, e mi ricordo sempre di questa cosa, perché ti segna il cuore quando hai un padre che lotta sotto per il lavoro, per il pane e per il tuo avvenire. Queste cose ti segnano. E allora ora io sono veramente arrabbiato, nonostante l'età sono incazzato, dice, ma ti incazzi a questa età? Sì, sono arrabbiato con l'ENE perché ci vogliono distruggere questo territorio, perché ci vogliono per i soldi, perché non hanno bisogno della grande quantità di produzione elettrica, perché l'abbiamo detto, perché non fate un piano di risparmio energetico, perché non facciamo un piano di bassa entalpia, come abbiamo detto, il calore per le serre, per gli artigiani, per riscaldare le scuole, per il teleriscaldamento. si può fare un'altra energia, un altro sviluppo. La regione non lo fa, perché quella non gli dà certificati verdi, quella non gli dà i soldi, solo quella elettrica gli dà soldi. E allora con i soldi, diceva un proverbio, almeno da noi, si manda l'acqua per in su, perché l'acqua la sapete che va in giù, ma con i soldi ci dicevano si manda l'acqua per in su. È un proverbio che me l'aveva insegnato sempre anche i nostri vecchi minatori. E allora questa comunità, noi diciamo, ha queste caratteristiche, e la nostra non è quindi una battaglia così perché ci piace mantenere solo la... Certo ci piace il nostro ambiente, certo ci piace la nostra realtà, ma è una battaglia che riguarda una zona più ampia, perché se si va a intaccare l'ecosistema della Miata, a mio avviso, di questo polmone di verde, noi abbiamo la più grossa faggeta dell'Europa. La montagna fino a 1738 metri c'è le piante, a 1738 metri. Non so chi ci è andato in montagna al Monte Miata. E allora questi ce le vogliono mettere in discussione solo per una questione di produzione di 20 megawatt e di 40 megawatt, tipo gli interventi come stanno facendo in Messico e in altre realtà. Questa era una battaglia contro il capitale, per i soldi, e l'Ene con i soldi ci ha comprato tutti. E i nostri amministratori, perché noi, io ho sempre un altro proverbio che dico, l'Ene ruba, l'ho detto, ma cari voi amministratori, voi siete quelli che li reggete il sacco. E c'è un proverbio che dice, non è ladro solo chi ruba, ma anche chi regge il sacco. E allora noi non vogliamo che i nostri amministratori reggino il sacco, però purtroppo lo stanno reggendo. E quindi noi siamo in una battaglia, in una salita così, quelli che devono mandare l'acqua per in su, però senza soldi, perché noi soldi non ce l'abbiamo. E ci tocca a farci sempre le collette. E allora, anche perché noi siamo convinti che esiste un'altra Miata, un'altra possibilità. La nostra non è solo una battaglia per il no, perché guardate che a volte le battaglie ambientaliste, io ho seguito, purtroppo non sono venuto ancora la TAV, ci dovrò venire anche io, perché si era detto della Miata, prendiamo, ecco, ormai ha ospitato tutti, ospiterai anche noi montanari. Semmai ci veniamo con un po' di castagne e un po' di funghi che male non fanno, ma ce l'avete anche voi, meglio dei nostri forse. Va bene, allora, non vai, allora però perché? Ma perché giustamente ci può essere un'altra, come voi lottate per un'altra realtà, per un'altra montagna, per un'altra zona vostra. Noi siamo convinti che c'è un'altra Miata che può nascere per i nostri figli, okay, e che nasce solo dalla valorizzazione delle risorse, di quel grande patrimonio ambientale che è nostra montagna, dalla valorizzazione del bosco, delle acque, del suolo, delle centri storici, dell'artigianato, della produzione di certe cose buonissime che la gente oggigiorno mangiamo altro che troiai, e invece, scusate, io non so come le chiamate voi, noi si dicono troiai, poi insomma, ecco, vabbè, si capisce. E allora io dico che queste cose devono essere l'avvenire della nostra zona, non l'Enel che ci viene e ci distrugge il territorio. Allora noi non siamo gente che siamo contro il progresso, che non siamo per fare le cose, siamo per fare altre cose. Perché la battaglia per la difesa dell'ambiente deve essere sempre accompagnata per la battaglia per un qualcosa di diverso. E noi siamo convinti di averle le cose. Il problema è che siamo anche pochi, perché noi siamo comuni di 4.000 abitanti, a Badia dove vivo io è 6.000, più grosso di tutti. Poi c'è comuni di 2.000 abitanti, 3.000 abitanti, 4.000 abitanti, fra tutti facciamo 30.000. L'Ene se potesse ci comprerebbe tutti e ci farebbe sgombrare tutti per fare lo sfruttamento dell'energia elettrica. Siamo anche pochi come popolazione, però la Miata ha un valore enorme che va al di fuori di noi. La Miata non è mia, è anche vostra, perché è della popolazione e dell'Italia di tutti. Ecco perché noi siamo orgogliosi di essere venuti oggi qui, e se arriveremo a fare una serie di lotte, compreso l'occupazione, perché se vogliono fare 9 centrali andremo ad occuparli il terreno, saremo pochi, vi chiederemo di venire con noi insieme. Tanto qualche cosa da mangiare di buono ve lo diamo uguale. Grazie, grazie mille. Passo la parola al compagno e alla compagna di Napoli. Buonasera, vengo da Napoli, potete immaginare di che cosa parleremo, della pizza. Della mozzarella. Non sono di Napoli, vivo a Napoli da un po' di tempo. Volevo riallacciarmi a quello che avete detto tu prima, il fatto che la lotta contro la devastazione ambientale è soprattutto la lotta contro il capitale. contro il sistema capitalistico. Tipo, l'ultimo passaggio del sistema industriale appunto è lo smaltimento della merda che viene prodotta. È la parte, per usare un linguaggio che fa ridere, meno nobile del processo industriale, però non per questo è quella meno ricca. Dunque a Napoli è capitato in più di un'occasione negli ultimi anni di confrontarsi con problemi di questo tipo, in quanto nella Campania, come altri posti nel mondo, è stata tipo eletta territorio dove smaltire l'immondizia di tutto il mondo o le parti del mondo più sviluppate, come può essere dell'Italia, ma anche tipo... Comunque, mediaticamente sono venute alla luce la lotta di Chiaiano, di Pianura, di Terzigno ultimamente, però tipo i focolai di una situazione di lotta più generalizzata con alcune metodologie sono state più diffuse. Possiamo ricordare Serra, tipo nel Salernitano, anche Acerra, che non so se è provincia di Caserta o di Napoli, dove hanno aperto poi alla fine un inceneritore. Dunque noi tipo ci siamo trovati a confrontarci appunto con queste lotte, portando la nostra metodologia, confrontandoci con quello che la popolazione voleva esprimere in quella... E tra le varie... Cioè la lotta dove ci ha visto più presenti, non come guida, che non ci interessa, cioè, ma chi si è avvicinato di noi non si interessava a fare da guida, ci ha visto più presenti tipo, a livello di partecipazione, complicità, collaborazione, decisioni da prendere, è stata quella di Pianura, che tipo, se non sbaglio è successo fine 2007 fino tipo, ai primi mesi del 2008. Pianura, tipo, si parla della riapertura di una discarica chiusa negli anni 50. Per una serie di avvenimenti è capitato che là c'è stato appunto un confronto maggiore tra noi e le persone del luogo che animavano questa lotta. Ma per, nel dettaglio passo la parola. Ciao, sono Monica, noi facciamo parte del Centro Studi Libertario Luis Michel di Napoli. E quindi partiamo da un'analisi un po' diversa da quella che anima e porta avanti il movimento contro le discariche, contro gli inceneritori. Noi partiamo da una critica alla produzione, prima di tutto, e non riportando nessuna alternativa. Noi non vogliamo suggerire nessuna alternativa al problema dell'immondizia. È un problema che ci cade dall'alto e che noi come utenti alla fine produciamo proprio numericamente e quantitativamente in misura molto ridotta da quella dai rifiuti e dall'immondizia che producono le industrie o tutto il sistema produttivo. Ed è quello che ci ha portato anche a come dicevi prima, no? A confrontarsi comunque nelle lotte con la popolazione o con gente che non la pensa esattamente come te. E quindi il nostro contributo a questa lotta era più che altro di stare accanto alla popolazione in lotta e creare una discussione e una critica sul sistema produttivo e sul mondo in cui viviamo. E questo ci è stato possibile ed è molto più profondo a Pianura. A Pianura perché? Perché ci siamo trovati sin dall'inizio, da appena appunto si è riproposta l'ennesima riapertura del sito di Pianura. Il sito di Pianura è stato uno dei primi siti aperti nel 1921 ed è stata... comprende 30 ettari sui 50 comunali, quindi la più grande discarica in Europa e la seconda nel mondo come estensione territoriale. Chiusa varie volte, riaperta l'ultima volta nel 96, poi richiusa, alla fine è stata proposta come riapertura di nuovo nel 2007. Pianura già la cosa che mi ha fatto sempre sorridere, Pianura già significa che è una pianura. Adesso se vai a pianura ci sono delle montagne e queste montagne non sono montagne naturali. L'ultimo progetto era proprio quello quando è stata aperta nel 96, quella di aprirla per altri 20 anni, così da riempirla, poi da ricoprirla di terra e di farci questo campo da golf. Questa era la loro idea di come sfruttare queste montagne. E, fino a quando la gente, la gente perché non si è mai rifiutata prima del 2007 a questa cosa? Che comunque era pianura alla periferia di Napoli, un luogo dove si sta appunto cominciando a popolare, non ci sono fogne, non ci sono scuole, non ci sono strade, e appunto con il ricatto anche della parte del delle istituzioni di ti costruiamo la discarica, però ti facciamo il sistema di illuminazione, ti facciamo la scuola, ti facciamo, e la gente sempre, fino a quando poi la cosa è diventata troppo evidente, tra parte le varie malattie, a parte proprio visivamente, che tu passeggi per questa montagna e ti vedi queste zaffate di liquido verde che escono dal terreno. A un certo punto è proprio inevitabile, no? La presa di posizione, il fatto che basta, io non voglio più la discarica in questo posto. E noi siamo trovati molto in contatto con questa popolazione, anche perché alcuni di noi abitano in questo luogo, quindi ancora è stato più facile avvicinarsi a questa situazione. La cosa bella è stata ritrovarsi appunto la sera a parlare di queste cose. La cosa comune è stata di non voler nessun personaggio politico all'interno di queste assemblee popolari. Eppure c'erano i personaggi politici, perché a parte un consigliere comunale di AN, che è proprietario di parte dei terreni, un distributore di benzina e varie altre cose, quindi aveva proprio interessi economici personali, la maggior parte dei politici, della politica istituzionale, comunque era presente ai presidi, perché comunque se non ci fosse stata sarebbero state perdite di voti. Però no, non ho mai fatto parte di queste assemblee pubbliche. Screditavano l'assemblea pubblica, i ragazzi che facevano parte di questa assemblea, però erano sempre presenti, ma sempre distaccati. Avrete visto dai giornali, in televisione, tutto quello che la forza di resistenza di una popolazione può fare, nel senso, in quei giorni era inavvicinabile Quarto, era inavvicinabile Pianura, Pozzuoli, c'erano roghi da tutte le parti, gente che resisteva. E naturalmente diversa da quella che la mattina stava ai presidi, ma che comunque non c'è stato mai il distacco tra quello che succedeva di notte e quello che succedeva di giorno. Sono sempre stati difesi e sempre stati. Era un modo diverso di lottare, non era un prendere posizione rispetto a dei metodi. Poi diciamo che facendo un percorso per ricostruire tutto l'iter di Pianura, alla fine, dopo numerose, sono riusciti comunque ad entrare nella discarica, sebbene ci fosse stato il presidio, ma anche una volta entrati dentro la popolazione ha continuato a resistere, sono stati bruciati i teloni, i macchinari per trivellare. La resistenza comunque si è mantenuta anche una volta che i macchinari sono entrati nella cava, nella discarica. Alla fine la discarica è stata giudicata non idonea a contenere ulteriori rifiuti, ma questo veramente perché, a parte la resistenza che c'è stata, perché c'era stato un talmente tanto sfruttamento di questo territorio che veramente non era più in grado di sopportare ulteriori sversamenti di rifiuti. C'è stato un altro, quest'inverno hanno tentato di nuovo di proporre Quarto, che fa parte del comune a fianco, Quarto come sede di un'apertura di discarica, ma non so se memori un po' di quanto è dura la resistenza da quelle parti, delle persone. La cosa è andata un po' scemando, nel senso non se n'è più parlato dell'apertura di questa discarica a Quarto. Non voglio parlare di Terzigno perché stiamo aspettando dei ragazzi che facciano parte che fanno parte del comitato di Vesuvio e Lotta, quindi loro sono molto più preparati di noi su Terzigno. Dopo qualche mese di pianura, che è finita poi appunto non si è aperta la discarica a fine gennaio del 2008, subito si sono cercati altri siti per l'apertura di nuove discariche, tra questi Chiaiano. Appena annunciata l'apertura di Chiaiano, c'è stato subito immediatamente un presidio permanente e quindi una mobilitazione anche di quelle zone. La differenza tra Chiaiano e Pianura era anche da un punto di vista geografico era molto evidente. Pianura comunque la discarica di Pianura comunque sorgeva in un posto abbastanza isolato, appunto dove era proprio come la periferia di Napoli. Chiaiano invece si trova è stata inglobata un po' nella città di Napoli ed è l'unico polmone verde di tutta quella zona, dove ci sono distese intere di alberi di ciliegie che mantengono anche l'economia del posto, passano le falde acquifere che appunto distribuiscono l'acqua in gran parte di Napoli, compresi tutti gli ospedali della zona. Quindi comunque da un punto di vista idrogeologico e geografico comunque era un punto sconsigliato per l'apertura della discarica. Un punto, lo stesso Bertolaso, che era commissario speciale, anni prima aveva detto che Chiaiano assolutamente no. Giri politici, giochi politici, si rimette di nuovo in gioco l'apertura della discarica a Chiaiano. La popolazione fa barricate, si crea un bellissimo movimento molto forte, anche lì appunto gli scontri sono visibili e la resistenza è visibile da tutti i punti di vista. Ma lì il sindaco di Marano accetta questo incontro con Bertolaso, e quindi torna una sera, noi l'aspettavamo alle 4 del pomeriggio, torna alle 8 di sera dicendo che chiedevano di togliere. Già, pensavo di dover parlare. Devo parlare 7 minuti e mezzo. Comunque, dicono di togliere le barricate, altrimenti o i manifestanti togliono le barricate oppure sarebbero entrati di forza. In cambio, però, avrebbero acconsentito 5 tecnici del popolo a entrare per fare le analisi sul terreno. Un gruppo di persone, il sindaco ha accettato, quindi si è discusso fino a stasera se togliere le barricate o meno, ma movimenti politici non istituzionalizzati che comunque sono presenti a Chiaiano perché fanno parte di Chiaiano decidono di togliere le barricate. e togliere le barricate e la resistenza di un posto significa, secondo noi, anche mollare la lotta. E da lì sono entrati i cambi per tutte le analisi e da lì il sito è stato giudicato idoneo e quindi adesso c'è una discarica bella. Il comitato di Caiano comunque continua la sua lotta adesso per una discarica a norma. E è stata occupata anche a settembre, ad agosto c'è stata una mobilitazione e niente, questo era un breve. Grazie del contributo. Poi comunque ci sarà una seconda ronda, quindi comunque se vogliamo poi aggiungere altro, chiaramente magari con meno tempo, non 15 minuti di intervento, però il dibattito resta aperto. E do la parola a Giulia. Io ovviamente provo un certo imbarazzo a intervenire dopo Chiapas, la Val di Susa, Monte Amiata e quant'altro, ma anche ovviamente le lotte forti che abbiamo visto di resistenza insomma nei territori campani. E un certo imbarazzo prima di tutto perché il nostro territorio, che è quello fondamentalmente di una metropoli, di una città insomma, tra l'altro anche particolarmente espansa e cementificata e senza una particolare cura diciamo della vivibilità urbana, non è esattamente appunto la libera montagna, non ha esattamente quella fascinazione, quindi è molto più difficile anche ritrovarsi intorno anche a un coinvolgimento emotivo che poi il tuo territorio ti lascia dentro e ti anima insomma nelle lotte che fai. E è un territorio tra l'altro che nell'analisi insomma negli anni abbiamo largamente condiviso, è un territorio già ormai assolutamente capitalistico, capitalizzato, è il territorio dello sfruttamento estensivo del capitale che va oltre il lavoro, è la metropoli fabbrica, è appunto il territorio dove quelle dinamiche del consumo, della anche poi magari ne parlo bene, della finanziarizzazione del territorio stesso e quindi appunto ben al di là del valore d'uso del territorio, uno sfruttamento che il capitale continua a fare. Nell'ultima manovra finanziaria si riapre per esempio il capitolo delle cartolarizzazioni, che altro non sono che la vendita del patrimonio pubblico. Tra l'altro nel pacchetto delle cartolarizzazioni a livello nazionale vengono messi anche territori come la Maddalena, insomma quello che sta facendo anche la Grecia vendendo le sue isole, i suoi atolli, questo avviene insomma in piccolo anche nel nostro paese e in forma capillare e diffusa sicuramente nella metropoli Roma, dove si sta vendendo di tutto, il patrimonio demaniale, il patrimonio del Ministero della Difesa, noi abbiamo una caserma occupata, uscito l'altro ieri, mercoledì, l'articolo sul Sole 24 Ore che fa parte di un primo pacchetto di 4 caserme che andrà a bando, all'asta di vendita entro dicembre, in Porto Fluviale, di cui abbiamo anche, esatto, così come un territorio anche che subisce fortissime ristrutturazioni, nel senso solo in questa zona prima c'erano i mercati generali e oggi ci sta passando un ponte sopra che collega due grosse arterie romane e quella è un'area che verrà tutta trasformata da una produzione tipo reale come appunto potevano essere i mercati generali, una produzione in termini di servizi, quindi è il cinodromo. E mostra super partes. Così come l'ex Alfa Romeo è diventata l'Università Roma 3, così come insomma la mappatura di questo territorio ormai è capillare da parte di chi come noi occupa gli spazi lasciati vuoti e quindi immediatamente disponibili alla rendita, alla speculazione immobiliare. Per capirci, la speculazione immobiliare è una speculazione enorme, cioè di cifre e di volumi giganteschi. e per capirci gli stessi che acquistano dallo Stato questo patrimonio in dismissione di appunto varia natura sono quei fondi immobiliari posseduti dalle banche, per esempio BNP Paribas, che in parte legata a Unicredit eccetera, che in parte detengono anche il debito pubblico italiano, cioè quello che ovviamente oggi viene messo sotto attacco dalle manovre speculative della finanza globale e che quindi noi tutti dovremo sacrificarci per rimborsare proprio coloro che intanto ci stanno depredando anche sul nostro territorio e molto da vicino. Io, siccome appunto non mi sono preparata a un intervento, accolgo la traccia di metodo che appunto ci danno in Fazio e Nina, e appunto un po' il territorio è questo, un territorio che ha frammentato anche le dinamiche di relazione sociale, ovviamente esistono, per fortuna siamo esseri umani e per fortuna resistiamo al capitale con varie forme e con varie modalità. Questo non vuol dire che il capitale appunto non riesca, per esempio in quartieri, non so, mi viene in mente Ponte di Nona, dove molti occupanti di casa dopo anni di lotta sono riusciti a prendere la cognata casa popolare, lì non c'è niente, non c'è un ospedale, non c'è una scuola, l'unico autobus alle 10:30 è uno di quelle linee di cui poi si legge sulle cronache che gli autisti non ci vanno a andare perché giustamente non è che piano di più per essere magari anche taglieggiati eccetera eccetera. E tutti i giovani e tutti quelli che hanno insomma in qualche modo del tempo libero eccetera vanno al centro commerciale Porte di Roma. Questo lo dico, magari qua dentro è ridondante e retorico, però questa è una realtà che riguarda insomma gran parte della città. Per fortuna noi abbiamo delle pratiche di lotta e quindi di quelle insomma dobbiamo parlare, dobbiamo alimentare, in particolare le occupazioni. In questo territorio ci sono tantissime occupazioni di tipo abitativo, quindi solo appunto legate al diritto all'abitare, alla mancanza in questa città di una possibilità di accesso sia di mercato, quindi con l'affitto, con l'acquisto, sia ovviamente anche in termini pubblici di un'abitazione degna insomma. Ma anche tante occupazioni di tipo sociale o socio-abitative e quindi appunto si delinea un territorio che al di là del municipio effettivamente noi siamo qui al cinodromo, a poche centinaia di metri c'è da poco occupato il deposito ATAC, l'ex deposito ATAC di San Paolo, un altro pezzo del patrimonio pubblico in dismissione, c'è occupata la caserma di Porto Fluviale, è occupato un ex IPAB, cioè istituti pubblici per l'assistenza e la beneficenza, una roba del patrimonio della Chiesa, oggetto di uno scandalo finanziario che ha rubato 80 milioni di euro alle casse della Regione Lazio, che è appunto Casale de Merode, poco più in là c'è Laurentina, che è un palazzo della Regione, a Via dei Radiotelegrafisti, e ci sono appunto gli spazi sociali. Un territorio che noi da un po' di tempo a questa parte cominciamo a affezionarci e cominciamo anche a suggestionarci, sono usciti degli adesivi che parlano di San Paolo Antifa, ci sono state anche resistenze insomma alle intrusioni dei fascisti su questo territorio, attive, cioè prolificano attività di tipo di sport indipendente, e insomma Renoiz come progetti di musica, tantissime cose che non racconto ma che ci restituiscono la dimensione per cui l'occupazione e soprattutto l'auto-organizzazione che poi la caratterizza ti restituisce una dimensione di indipendenza rispetto alle dinamiche del capitale. Sicuramente il fatto di non pagare l'affitto, il mutuo, ti restituisce spazi di libertà rispetto anche al dover lavorare 10 ore al giorno con le dinamiche che tutti conosciamo, insomma, senza il rispetto delle persone, così come il capitale non ce l'ha per i territori, ovviamente in primis non ce l'ha per le persone, e quindi la precarietà è tutto quello che viviamo. Dopodiché, appunto, vabbè, come ho cominciato a lottare io, magari non è troppo interessante. Le forme di lotta insomma più o meno l'abbiamo detto, poi ovviamente nella lotta per la casa si producono mobilitazioni di vario tipo, siamo arrivati pure a arrampicarci sul Colosseo, c'è sì, per una settimana e passa, nel senso ci stanno e girano, vabbè, c'è ovviamente un rapporto con le istituzioni, che ovviamente è un rapporto di tipo conflittuale, ma che abbiamo, nel senso che poi la rivendicazione, soprattutto come movimenti di lotta per il diritto all'abitare, concreta e immediata, è quella di case popolari. Quindi andiamo anche a controllare come i consigli regionali approvano i piani casa, come il comune non fa le case, insomma, a controllare, poi scopriamo sempre la stessa cosa, che fondamentalmente non c'è un diritto all'abitare, sta andando in dismissione anche tutto il patrimonio ERP, la nuova politica dell'abitare, siccome l'edilizia popolare alle mani, insomma, l'ha definita roba da socialismo reale e quindi non adatta sicuramente a una metropoli da lui governata come Roma, parliamo adesso di social housing, che fondamentalmente è un alloggio privato, che il privato per realizzarlo prende premi di cubatura, prende terreni a prezzo stracciato, ha il diritto di vendere a prezzo di mercato la maggior parte degli alloggi realizzati, e qualcuno in mancia lo dà non a gratis al comune, eccetera, ma lo dà a canoni un po' più sostenibili, 5, 6, 700 euro al mese. Ma ancora non esistono, comunque, tanto per tranquillizzarvi, non è che comunque non è solo un progetto. Intanto smantellano il patrimonio delle case popolari e la ghimè, cioè, nel senso, per le briciole che neanche ti danno. Dopodiché, ovviamente, appunto, dall'auto-organizzazione all'autonomia, come fare? Anche qui, insomma, la domanda non è, cioè, non si può dare una risposta, però sicuramente questo momento di riflessione, insomma, di cui ringrazio anche a nome sicuramente di Agrobax chi l'ha organizzato, perché in un momento di concitazione, in un momento in cui stiamo anche molto tesi, costruendo la giornata di mobilitazione transnazionale del 15, e su cui ovviamente ognuno di noi sta anche investendo tante energie, è importante anche invece fermarsi un attimo a fare una riflessione più profonda sul senso anche delle battaglie che poi facciamo. Allora, è chiaro che il sistema capitalistico è articolato in vario modo, che tantissimi sono i fronti, tutti ovviamente assolutamente legittimi. C'è un fronte che è quello della finanziarizzazione globale, cioè il lavoro è un terreno di sfruttamento, i territori sono un terreno di sfruttamento, ma il rapporto tra l'economia finanziaria e l'economia reale è di 50-1. Cioè, nel senso, per ogni miliardo di euro prodotto dall'economia reale, beni e servizi, ce ne sono 50 prodotti dalle transazioni finanziarie, dalle speculazioni sui derivati e quant'altro. Neanche io sono un professore di economia, quindi non entro nel merito, però abbiamo avuto il piacere di fare con Fumagalli un approfondimento e ovviamente, insomma, sono momenti interessanti. Contro la finanza globale, la lotta deve essere globale, e quindi una suggestione sicuramente è collegare le resistenze locali con una dimensione transnazionale, nella misura in cui ovviamente esistono ancora tante specificità legate a un territorio, diciamo così, nazionale, e quindi tante specificità di situazioni politiche, socio-economiche e quant'altro, ma con la consapevolezza che soltanto un network globale e la capacità di coordinarsi su parole d'ordine chiare, insomma la parola d'ordine di questa manifestazione, non ci rappresenta nessuno, il debito non lo paghiamo, è un debito che non riconosciamo, tutto creato nel mondo della finanza, e che serve soltanto ad incutere ulteriore paura sulle nostre vite già precarizzate, perché ovviamente chi ha paura lotta meno, e ovviamente quindi noi questa paura invece gliela vogliamo, insomma, un po' rigirare contro, inventarci nuovi strumenti di lotta anche sui territori, appunto, delle pratiche del capitalismo più avanzato, e speriamo bene che il 15 ottobre possa essere un passaggio in cui riusciamo a portare un segno di radicalità, in cui riusciamo ad avere anche la capacità di comunicare e sedimentare in un ambito anche più largo delle comunità resistenti in cui per fortuna viviamo, ma insomma ovviamente abbiamo tutti l'ambizione di uscire e di andare oltre. Gino, non lo so, il microfono là non ci arriva, non ti dico dietro al tavolo della sfiga, però. Allora, io porto una testimonianza di un comitato che sta qua ai Castelli Romani, si chiama Coordinamento contro l'inceneritore di Albano, un comitato che nasce ormai 4 anni fa e, diciamo, ha portato avanti una lotta, come dice il nome, principalmente sulla questione di un inceneritore che doveva sorgere sul territorio dei Castelli Romani, in particolare nel comune di Albano. La zona è quella di Via Ardeatina, quindi parliamo del 1,24 km, una zona in prossimità delle zone di Cecchina e di Roncigliano, per chi conosce un po' la zona. Comunque all'incirca al centro-sud di quelli che sono i Castelli Romani. Questo comitato, io cerco un po' anche di seguire un po' la traccia, quindi il mio territorio l'ho detto, è i Castelli Romani praticamente. E il comitato nasce quando si ha notizia del fatto che i sindaci dei Castelli Romani, in particolare erano 9-10 sindaci, si dicono disponibili ad ospitare un inceneritore delle dimensioni di all'incirca 200.000 tonnellate di rifiuti annui sul proprio territorio, quindi un inceneritore che sarebbe stato in grado di bruciare anche più rifiuti di quelli prodotti dallo stesso territorio dei Castelli, perché i Castelli producono all'incirca 80.000 tonnellate annue di rifiuti, mentre l'inceneritore ne avrebbe bruciate 200.000, quindi le restanti 120.000 sarebbero dovute provenire probabilmente da Roma o dalla Campania, che era in quel periodo, all'inizio del 2007, in piena crisi di rifiuti, era il momento delle immagini dei rifiuti per strada, insomma, situazioni che conosciamo e che sono state anche esposte precedentemente. Quindi questa lotta si è articolata in maniera, a me viene da dire, molto semplice e naturale, perché così è stata proprio una lotta di resistenza popolare, nel senso che alcune persone che hanno avuto notizia, che poi erano per lo più compagni di zona, che si mobilitavano per altre faccende già da tempo e si conoscevano, si sono ritrovate intorno a un tavolo a discutere di questo progetto mortifero che veniva proposto al territorio, hanno deciso di costituirsi in comitato. Di lì a poco sono iniziate a girare intorno all'assemblea del comitato, quindi il modo con il quale si prendono le decisioni è sempre quello assembleare, diciamo, quindi un metodo orizzontale senza leader né capi, dove tutti hanno la stessa voce in capitolo, tutti possono portare le stesse questioni. Di lì a poco il comitato si è allargato, quindi con la presenza di persone più comuni, persone che abitavano la zona, persone che vivevano in prossimità della discarica, sono passati anche rappresentanti di partito che sono rimasti, diciamo, per un periodo transitorio all'interno del comitato, poi per attriti interni diciamo, hanno deciso di andarsene o sono stati spinti ad andarsene, insomma, vedetela come volete, però al momento il comitato è composto solamente da realtà auto-organizzate, da compagni e compagne, abitanti dei Castelli Romani, diciamo più o meno militanti, perché ad oggi ci sono ancora delle persone che continuano ad arrivare, perché comunque quello dei percorsi assembleari così popolari è anche un percorso che si nutre di nuove energie e ne perde delle vecchie, quindi persone magari che c'erano prima si sono perse per strada, persone nuove sono comparse, quindi di conseguenza le persone che animano poi il comitato non hanno tutti la stessa competenza né politica e né tecnica. Col passare avanti del tempo, diciamo, ci siamo organizzati innanzitutto in una prima fase di iniziative informative e poi in una fase di iniziative di mobilitazioni un po' più radicali, come presidi, assemblee pubbliche, cortei e anche occupazioni di consigli comunali, eccetera. Parallelamente al percorso di lotta e di mobilitazione territoriale, che non è affatto facile perché i Castelli Romani sono anche più vasti, diciamo, di molti territori che hanno visto lotte popolari, diciamo i Castelli Romani sono una decina, se vogliamo racchiuderli così, anche mettendoci in mezzo quelli che non sono propriamente i castelli perché storicamente lo erano, ma comunque sono coinvolti in questo processo di costruzione perché i sindaci di quel determinato comune erano a favore della costruzione. Quindi un territorio vastissimo che era difficile anche da coprire a livello di informazione. Noi eravamo all'inizio una 30ina di persone, adesso siamo all'incirca una 40-50 fissi stabili, però il numero è quello, più tanti simpatizzanti, e volantinare, fare attacchinaggi, sostenere iniziative pubbliche, assemblee pubbliche nei vari territori. Queste settimane, per dire un po' di cifre così per capirci, abbiamo 4 assemblee nel giro di 2 settimane e sono tutte e 4 in comuni diversi, quindi arrivare a parlare in un comune una volta ogni due settimane significa poi farne magari quattro nel giro di due settimane, perché uno deve parlare un po' a tutte le zone. Quindi è una lotta che è molto radicata nel territorio, nel senso che poi si gira volantinando porta a porta, cioè si va nelle piccole cittadine o anche nei piccoli villaggi, che sono quelli che stanno in prossimità della discarica, a volantinare porta a porta, a suonare il citofono alle persone, si racconta la faccenda, un po' quello che raccontavano i compagni in Val di Susa quando siamo stati su, che ci dicevano: guarda, 20 anni fa noi facevamo i porta a porta, i volantinaggi, e oggi invece basta fare una telefonata e arrivano, diciamo, 2000 persone. Quella è la forza di aver costruito, secondo me, un percorso radicato, un percorso che è molto sentito poi dalle realtà territoriali che vivono appunto il luogo. Nel corso, diciamo, di questi anni siamo riusciti, diciamo, parallelamente, come dicevo, al progetto popolare, quindi al percorso popolare, abbiamo portato avanti anche un percorso ovviamente tecnico e legale. Tecnico per lo studio dei progetti che c'erano in piedi, quello sull'inceneritore e poi successivamente quello sull'ampliamento di questa discarica, che diciamo è già una discarica trentennale, esiste su quel territorio da 30 anni. Quindi una discarica che ha già martoriato grandemente, diciamo, quelle terre. Vi riporto un po' di dati che sono stati raccolti queste ultime settimane. Ci sono diversi pozzi spia che sono nella discarica proprio per controllare la natura degli elementi che stanno sotto terra, e ci sono in questi pozzi spia dei valori dell'arsenico e del cloroformio, che sono due noti veleni per chi li assume, diciamo, per bocca, che sono uno 7 e l'altro 10 volte oltre i limiti, come cancerogeni anche, certamente, entrambi. L'arsenico è uno delle cause maggiori, diciamo, di tumori alla pelle, alla prostata e cose di questo tipo, quindi è effettivamente cancerogeno a tutti gli effetti. Quindi questa discarica trentennale ha già inquinato grandemente la terra, le acque, le falde acquifere, le persone di Villaggio Ardeatino, di Villaggio Valle Gaia, che sono persone che abitano su via Ardeatina, non sono persone che stanno, diciamo, dall'altra parte del mondo, una via che magari percorrete anche per andare al lavoro, abitano lì da 30 anni, hanno acqua che esce dai loro rubinetti che è contaminata, acqua che non può essere bevuta. Sono persone che per il male odore, la puzza che sta lì, perché vi parlo di gente che vive a 200 metri da una discarica, non è che stiamo parlando di distanze, per esattezza la prima casa sta a 173 metri misurata da un geometra per questioni legali, e sono persone che non possono aprire la finestra d'estate né invitare i loro amici a casa a mangiare una pizza fuori, perché praticamente sembra di stare con la testa dentro un cassonetto dell'immondizia. Quindi parliamo di condizioni di vita proprio materiali, di contraddizioni del capitalismo che sono veramente consistenti, cioè sono cose che si toccano con mano, che, sulle quali non c'è poi da fare tanta dietrologia o teoria politica, perché parliamo di inquinamento dell'acqua, inquinamento dell'aria, inquinamento delle falde acquifere, bambini che crescono in territori martoriati, che insomma hanno un destino segnato, diciamo. Quindi situazioni molto simili a quella campana, magari della quale siamo più informati perché poi è uscita sui media in maniera più forte. A fianco a questo percorso popolare, dicevo, abbiamo portato avanti uno legale, e dopo 6-7 cortei cittadini molto partecipati, dopo aver occupato il Consiglio Comunale due volte e tutto, siamo riusciti a bloccare il progetto dell'inceneritore, nel senso che al momento il TAR ci ha dato ragione su questi tre ricorsi che sono stati presentati, e adesso siamo in attesa del ricorso del Consiglio di Stato che è stato fatto dall'azienda che ha perso, diciamo, contro i nostri legali. Ha fatto ricorso al Consiglio di Stato che si dovrebbe esprimere il prossimo novembre, quindi siamo in attesa di questo pronunciamento, perché per noi sarà un po' l'ago della bilancia, nel senso che se il Consiglio di Stato ci darà ragione la partita dell'inceneritore sarà chiusa definitivamente, viceversa si riaprirà una nuova stagione di lotta su quello che riguarda questo bruciatore. Nel frattempo, come dicevo, la discarica si vuole allargare, si è allargata, un mezzo sublotto è stato fatto delle dimensioni di 4 campi da calcio, 500.000 tonnellate di rifiuti che verranno sversate in 8-10 anni in un territorio che non ha nessun tipo di raccolta differenziata, quindi il tutto, il tal quale, viene preso e depositato in discarica. E quindi noi, diciamo, sono un po' di mesi che stiamo portando avanti anche questa battaglia contro la discarica, per la chiusura della discarica e eventualmente poi una gestione diversa dei rifiuti, sulla quale neanche noi ci esprimiamo più di tanto, perché non ci sembra che sia una cosa che riguarda un comitato, quella di fornire delle alternative, cioè si possono dare alle persone che te lo chiedono, ce ne sono tante, c'è il modello Vedelago, c'è il modello Los Angeles, c'è il modello rifiuti zero che viene sposato forse da Napoli, ha sentito dire da De Magistris. Comunque di alternative ce ne stanno tante, non è il problema di quali sono le alternative, il problema è bloccare quelle che invece sono delle scelte mortifere come inceneritori e discariche. Quindi io colgo l'occasione per ricordarvi un appuntamento importante, che è quello del corteo del 22 ottobre, che sarà quindi ad Albano contro l'inceneritore e per la chiusura della discarica e della bonifica di questo territorio, che è, diciamo, il culmine di un percorso che dura 4 anni. E chiudo un po' qua sulla questione della lotta, diciamo, sul resoconto cronistoria, magari per fare qualche considerazione in più. Perché, diciamo, secondo me questi momenti servono soprattutto a questo, oltre che a uno scambio di informazioni che ci diamo. Cioè, sono perfettamente d'accordo con Fazio e con chi altro ha ripreso il discorso, che queste lotte rappresentano oggi il vero antagonismo a una forza capitalista che si esprime sul territorio. Diciamo, le forze ambientali, ma anche perché forse un po' le forze sul lavoro sono venute meno, perché sono diventate purtroppo prerogativa dei sindacati, sempre più svenduti a quello che è il potere, diciamo, di parte. E quindi le lotte ambientali, le lotte di resistenza, forse stanno diventando una delle forme più forti di ostacolo a un capitalismo scellerato, anche perché sono lotte che vanno a incidere, non dimentichiamolo, sull'aspetto economico del capitale. Questa è una battaglia da 400.000 euro, la Val di Susa è una battaglia da 17 miliardi di euro, e poi non so, insomma, il Montamiata immagino che ci avrà le sue cifre e così via. Quindi quando si va a incidere sui profitti, sui guadagni poi di quelle che sono le grosse aziende del capitale, allora là si fa il vero danno, là la resistenza diventa davvero consistente, diventa veramente qualcosa di forte. E l'altro aspetto molto interessante, che magari ci vorrebbe un po' più tempo da sviscerare, è quello del fatto che comunque queste lotte hanno una natura molto popolare, che significa che sono a composizione completamente eterogenea. Ci sono compagni di vario genere, dai comunisti agli anarchici ai non specificati, fino a persone che non sanno niente neanche di chi è Marx o chi è un centro sociale o dove sta l'Agrobax. Quindi è molto bello, perché poi alla fine bisogna rapportarsi. Noi siamo qua, ci facciamo tutte le nostre pippe teoriche, però poi quando io vado a Villaggio Ardiatino parlo con la gente che ha i galli sulle mani e che il problema suo è chiudere la discarica e basta. Poi sostanzialmente tutte le dietrologie che poi spesso uno si fa non se le pone, ed è bello perché da una parte i compagni possono avvicinare queste persone poi a riflessioni politiche di più ampio spettro, e dall'altra loro secondo me ci regalano un modo di fare le cose che è molto pratico e pragmatico, che alcune volte ci sfugge di mano, perché noi diciamo molto spesso forse ci perdiamo, ci ancoriamo troppo dietro a questioni teoriche, oppure questioni che sono di nicchia, questioni che riguardano, che conosciamo noi, che sono d'Oltralpe, di cui parliamo, ma che poi non riescono a trovare il radicamento nel territorio che vorremmo, perché poi effettivamente non sono sentite dal resto della popolazione. Chiudo con un aspetto un po' forse provocatorio, diciamo, però passatemelo, perché la compagna prima ha fatto un bel intervento, secondo me, portando alla luce di tutti quello che è una delle lotte, secondo me, più vere, più forti a Roma, che è proprio quello della lotta per l'abitare, contro la cementificazione, contro, insomma, la politica delle case che conosciamo bene. E io credo che questa lotta a Roma sia portata avanti con grande capacità, è una lotta che va avanti da anni, eccetera, eccetera. Però io ridico una cosa che dico sempre, insomma, che ho detto spesso, l'invito ai compagni e alle compagne di Roma è anche a riflettere su quali altre possono essere le battaglie da portare avanti in maniera vertenziale, oltre quella della casa, che è una lotta ormai storica e che va avanti quasi da sé, verrebbe da dire, perché funziona bene. Perché, diciamo, le nocività sono tante, c'è la Val di Susa, che però sta a migliaia di chilometri, c'è Chiaiano, che però sta a altri chilometri, Tersigno, ma nel Lazio ci stanno tutta una serie di cose che secondo me meriterebbero di essere prese in considerazione, che invece non vengono prese in considerazione. E parlo della discarica di Malagrotta, che è in piedi da 20 anni, della quale il Movimento Romano non si è mai occupato. Ora Malagrotta chiude e aprirà molto probabilmente una discarica a Valcanneto, Palidoro, quella zona lì, Fiano, Romano. Ne parlo in maniera generica perché ancora non è sicura. A Fiano Romano, a Valcanneto, già si stanno mobilitando dei comitati che sono spontanei, comitati di persone che si sono messi insieme, eccetera. L'invito è andare a sentire che succede, andare a capire cosa si muove da quelle parti, perché poi le lotte, diciamo, vanno costruite. È bello andare in Val Susa a tirare i sassi dopo 20 anni che ci stanno i compagni che comunque hanno costruito e radicato la battaglia sul territorio, però poi noi, secondo me, dobbiamo farci carico, così come Roma si è fatta carico delle battaglie sulla casa e sul diritto all'abitare, si deve far carico di tutta una serie di altre cose: centrale civile vecchia a carbone, no turbogas di Aprilia, tutto l'inquinamento che riguarda la Valle del Sacco, Colleferro, dove ci stanno inceneritori, discariche, industrie chimiche, la discarica di Guidonia, insomma il Lazio, per non parlare per esempio dell'arsenico. Il problema dell'arsenico è un problema che riguarda 128 comuni italiani che sono stati trovati con i limiti fuori legge, e 91 di questi comuni, 91, sono tutti nel Lazio. Quindi, secondo me, trascurare l'inquinamento dell'acqua, che non significa fare una battaglia per l'acqua pubblica, è diverso, cioè dire io ho questo problema, voglio che i miei rubinetti continuino a erogare acqua potabile. Su 91 comuni ce ne sarà uno che ci sta simpatico, dove andiamo là e gli diamo una mano, no? Magari a fare qualcosa, nel Viterbese ce ne stanno una cifra, ai Castelli ce ne stanno altrettanti. Quindi l'invito è sempre quello di solidarietà a tutte le realtà, diciamo, oltreoceano, dove si muovono, così come ce le hanno raccontate Fazio e Nina, che ci hanno il coraggio, diciamo, di portarla avanti anche in prima persona da quelle parti. Però noi che siamo qua, che non stiamo in Messico, non stiamo in Val di Susa e quindi non possiamo incidere immediatamente, no? Se c'è un problema non possiamo scendere in strada immediatamente, e quindi magari per quanto riguarda quelle lotte ci limitiamo a fare un viaggio in Messico, andare in Val di Susa quando serve e c'è la manifestazione nazionale. Dovremmo però pensare a come radicarci nei nostri territori con altre vertenze, in maniera vertenziale, in modo tale che poi quando ci stanno appuntamenti europei, transnazionali, eccetera, noi non portiamo un contributo magari generico che comunque è buono, ma portiamo il contributo della nostra lotta specifica che è stata costruita su quella tematica, come quella per la casa per esempio a Roma che è stata fatta. Infatti sono anche quelli i contributi che il Movimento Romano porterà nella giornata del 15, ma possiamo portare dei contenuti di una lotta che si è radicata e che è quello, credo, di cui stiamo parlando, no? Battaglie territoriali, battaglie popolari, battaglie auto-organizzate che propongono modelli diversi di gestione, di autonomia, e che vanno a incidere direttamente sul capitale. Basta. Mi prendo un attimo la parola. Ovviamente non potrò portare tanti esempi, quelli che più sono legati alle lotte territoriali in Messico, ripeto, sono quelle degli indigeni, però, e delle comunità, che sono anche le stesse che poi propongono un modello d'alternativa possibile alla proposta distruttrice del capitale. Però innanzitutto volevo pure ribadire un paio di passaggi in qualche modo d'analisi, che la lotta, la vertenza, quella che chiamiamo la vertenza territoriale, appunto, una vertenza ambientale, però non è ambientale in questo caso. Rendiamoci conto di questo, del passaggio che, come ha detto il compagno, o come dicevano in valle, cioè per il capitale, oggi come oggi, è necessario, però è necessario in maniera strutturale dover investire in grandi opere, dover investire in discariche che non servono, che comunque sono solo frutto di uno smaltimento, di una politica che è la stessa della sovrapproduzione, e che comunque, o l'idea della velocità del trasporto delle merci, cioè della mozzarella che viaggia a 400 km all'ora, nel senso tutto ciò che è tutto è inutile, alienato dalla nostra vita come esseri umani, e ci relazioniamo appunto su un territorio e in una comunità, però è fondamentale per il capitale. Perché ci mandano in altro poi i carri armati? Perché la Val di Susa sembra Belain, la Palestina, per come è circondata di filo spinato, per come è dispiegata la forza di polizia sul territorio? Perché a Napoli o intorno di Napoli ci sono voluti giorni e giorni di battaglia, altro che le quattro giornate di Napoli? Nel senso, l'accanimento con cui il capitale vuole imporre i propri progetti è perché sono vitali, sono necessari per il capitale stesso. Cioè, in un momento appunto di crisi sul capitale produttivo, perché, cioè, la crisi è per noi senza dubbio, perché poi noi ne paghiamo i costi, siamo noi quelli che poi dobbiamo accettare lavori sempre più precari, sempre meno pagati. Però per il capitale stesso reinventarsi i lavori ogni volta è comunque, richiede un'intelligenza che costa, E tutto questo c'ha bisogno quindi di reinvestire, di mettere in circolo i soldi, perché il capitale è quello, sono soldi, li investo in qualcosa di reale per avere più soldi, soprattutto in un momento in cui il capitale finanziario è quello che è, si è rivelato per quello che è, cioè per un gioco, per dei numeri a cui non corrisponde una ricchezza reale. E quindi è per quello che fanno a forza il treno ad alta velocità, è per quello che vogliono fare un progetto così come a Montagnata o come le discariche. Io ripeto, ma è la stessa logica che fa fare le dighe in Messico o le dighe in tutta l'America o le miniere a cielo aperto nei territori indigeni. Quindi poi, ripartendo da quello, guarda, qui io voglio solo fare un paio di cose. Innanzitutto, appunto, l'assemblea come elemento decisionale. A voi vi pare poco che dal Messico al Monte Amiata, alla Valle, al centro sociale degli alternativi, insomma quelli un po' strani così, la presa di decisioni indipendente è l'assemblea? A me non mi pare qualche elemento da poco, perché riga, fino a un tot di anni fa, anche nella sinistra storica, nella sinistra rivoluzionaria, l'assemblea non era il momento decisionale e fondante a forza. Lo è diventato come pratica dei movimenti, spesso con, per esempio, il movimento dell'autonomia operaia, con i quartieri che facevano le autoriduzioni. Cioè, nel senso, non è che nel partito della sinistra rivoluzionaria, nei vari partiti, vado pure oltre il Partito Comunista, che c'ha dei rivoluzionari, non c'ha mai avuto niente, l'assemblea era l'elemento decisionale. Cioè, questa è una conquista che noi stiamo facendo, sperimentando nelle lotte il fatto che la soluzione non ce l'ha uno, non ce l'ha un dirigente, non ce l'ha un corpo di specialisti della politica. La decisione è fra la gente, fra tutti sappiamo tutto. Ma questo è un passaggio fondamentale, è un passaggio che poi si vede pure nei movimenti che stanno attraversando il pianeta in questo momento e stanno mettendo in crisi il capitale, davvero. Cioè, nel senso, per quanto poi non possiamo conoscere fino a certi i dettagli la cosiddetta primavera araba e tutti i movimenti che ci sono attorno al bacino del Mediterraneo, la Grecia, la Spagna, ma anche i nostri movimenti, i movimenti in Messico, molti altri movimenti in America Latina contro la privatizzazione dell'acqua in Bolivia, contro la privatizzazione del gas, il movimento Piquetero, insomma tutti questi movimenti da 20 anni a questa parte, di cui il laboratorio Latino America è un laboratorio, sono basati sulla presa di decisioni dell'assemblea e non del dirigente, non del partito, non del sindacato. È un cambio sulla presa di decisioni fondamentale, perché distrugge in qualche modo la teoria leninista per cui ci sono degli esperti che guidano le masse, poi che lo facciano i leninisti o meno è un'altra cosa, e crea una cosa che pure noi, io dico noi, quando dico noi intendo i libertari o parte anche dei movimenti anti-istituzionali e se vuoi anche gli anarchici, spesso noi ci siamo posti la questione di noi abbiamo capito le cose, la gente non ne capisce molto, quindi noi gli andiamo a spiegare come si fa. Ora, questo approccio alle lotte, in qualche modo, è leninista. Cioè, in qualche modo, ripropone la logica per cui ci sono degli esperti nella politica, degli esperti sul territorio, che guidano le masse. Allora, e che quando, non manco ci può stare che quando la gente non ci capisce sono tutti stronzi, no? Perché sennò le cose non le cambiamo. Ragion per cui, quando parlo di quella certa disponibilità che dobbiamo imparare da stare in mezzo alla gente, è quella, essere ricettivi di tutte quelle forme, pure in politiche con cui la gente contesta e dica no, certo non è che dobbiamo andare a fare comunicazione col fascista o comunque con la persona che è a favore di un progetto di privatizzazione, però fra i no dobbiamo anche capire e mettere con intelligenza no a guidare le truppe, la gente, ma a spargerla fra la gente. Pare un discorso molto teorico, ma in realtà quello che voglio dire è che l'energia dei collettivi, degli spazi occupati, dei gruppi organizzati, dei comitati, questa energia deve essere messa in qualche modo a servizio, deve accendere la miccia e dopodiché farsi da parte nella presa di decisioni e permettere che quell'assemblea fioriscano e dove si prendono le decisioni. Ma dobbiamo prendere atto che questo è un cambiamento in qualche modo epocale nei termini della storia della lotta di classe, perché per anni, per decenni, anzi forse per 150 anni, se vogliamo prendere dal 1848, si è deciso altrimenti. Non sempre si è deciso che la rivoluzione si doveva fare attraverso assemblee, anzi spesso i partiti, i gruppi, le avanguardie hanno optato per altro. In questa fase di scontro col capitale e soprattutto nei territori è l'assemblea che riprende protagonismo politico. Noi che veniamo da posti che praticano l'assemblea, noi che siamo comunque figli dell'auto-organizzazione con tutti i suoi difetti, dobbiamo fomentare e esercitare questa pratica anche negli spazi popolari e far recuperare anche alla vecchia del quartiere la voglia di andare in assemblea e sentirsi parte decisionale. Forse chissà, è questo uno degli elementi più interessanti anche della Val di Susa, dove, ecco, io non lo sapevo, ci sono 52 comitati in una valle, che comunque non è un territorio enorme, solamente più comitati che a Roma ci stanno. Quindi questa parte dopodiché sulle forme di lotta in Messico, ripeto, là fuori c'è un banchetto con i nostri materiali, ci sono opuscoli, c'è un libro, dopo presenteremo un video, perché in Messico a livello di forme di lotta c'è tutto, c'è da un esercito popolare dai gruppi di autodifesa armata, diciamocelo, in Messico si difendono anche col fucile in mano, perché la madre terra, perché il mio territorio, il mio fiume, se me lo attacchi con i carri armati, io lo difendo col fucile, minimo. Anche se non è il fucile la forza della gente, ma è la gente. Quindi comunque lo spirito è lo stesso. Non stiamo parlando di guerriglie che hanno utilizzano un'offensiva contro l'esercito regolare. Stiamo parlando di indigeni, contadini, contadine, ma anche cittadini, soprattutto nei piccoli villaggi, che decidono in maniera auto-organizzata di porre un freno anche attraverso le barricate, anche attraverso le armi, anche attraverso un utilizzo in qualche modo strumentale dell'autodifesa, dove però la forza non è il fucile, la forza non è la barricata, la forza è la gente, perché comunque un calibro 22 dei compagni, ma anche tre Kalashnikov, sono niente rispetto a tutte le armi di cui dispone il potere. Quello che fa la forza nella selva lacandona dei zapatisti è l'adesione al progetto reale da parte di decine di migliaia di indigeni che sono disposti a morire con un fucile di legno in mano di fronte all'attacco del capitale. Quindi è quella la vera forza, non è il fucile, però a volte c'è bisogno anche di fucile. I compagni dicono ci vuole tanta tenerezza per sconfiggere il buio che ci abbiamo sopra di noi, ma ci vuole anche una certa dose di piombo, perché se no come famo? Ora non è un invito, perché comunque qua fra una cimice e l'altra, insomma, io devo pure tornare in Messico, me lo fa restare a Fiumicino dopo questo discorso, però evidentemente non ci dobbiamo spaventare pure della radicalità dello scontro, perché se noi andiamo a attaccare una fonte di guadagno strutturale del capitale, dobbiamo aspettarci la reazione in consulta del capitale, armata, militarizzata, ed è quello che stiamo vivendo dalla valle fino alla campagna. Quindi mi fermo qua, per le lotte ci sta il banchetto, ci sta il video. C'è una domanda invece, cioè c'è una domanda un po' provocatoria, un po' che passa per Napoli, voglio sapere un po' la Miata e Laura, non so, Laura non c'è, mi verrebbe da dire. Però appunto i compagni hanno detto, a differenza della valle, in valle le amministrazioni in qualche modo sono pure un po' famosi, questi sindaci che marciano con la gente, però non sappiamo fino a che punto e quali sono le differenze reali, quindi se c'è la compagna che ce lo vuole spiegare. Dopodiché quello che mi chiede è come hanno fatto ad aggregare fino a questo punto, come si fa a aggregare, a fare politica in maniera indipendente anche dalle amministrazioni locali, perché è una difficoltà, diceva il compagno, noi dobbiamo fare dall'acqua in salita. Come si è fatto a Napoli? Come si sono creati questi spazi di aggregazione indipendentemente dalle amministrazioni locali? Perché se qualcosa dobbiamo veramente imparare a fare è a mantenere la nostra indipendenza nelle lotte, perché sappiamo che tutti gli strumenti di mediazione del capitale, cioè i partiti, i sindacati, i preti, insomma via dicendo, hanno un solo interesse: riarginare quella lotta, ricanalizzarla in termini istituzionali e possibilmente con un tornaconto personale vantaggioso. Quindi cioè, in realtà nello scontro frontale che c'è su una fonte di guadagno strutturale, noi a difesa del nostro territorio, ultimo territorio che è vita, perché raga, quando inquini l'acqua, e porca miseria, sta inquina l'acqua, sta inquina la vita. Quando mi strappi i campi, i territori, il paesaggio, mi distruggi l'aria che respiro, me la inquini e stai a attaccare la vita. Ripeto un'altra volta come era nella convocazione di questo dibattito. I zapatisti dicono: il neoliberismo ha dichiarato guerra all'umanità. In questo senso l'umanità è quella che vive nei territori, quindi è una guerra totale del denaro contro la vita. In questo senso invito i compagni a farci un po' una spiegazione come è stato possibile generare queste lotte in maniera indipendente dalle amministrazioni, anche perché almeno può essere uno stimolo per i compagni della Miata che appunto qualcosa hanno già fatto, si troveranno di fronte a altre battaglie e vediamo se c'è una possibilità di costruzione dell'indipendenza delle lotte. Sì, apriamo pure le domande, se qualcun altro ha qualche altra domanda, così magari vengono fuori interventi che possono avere differenti... Qualcuno che vuole fare qualche domanda o una riflessione, chiaramente. Sì, Matti? Non te va più, Matti? Vabbè, tu fai finta che non c'è stato. No, vabbè, io in realtà era più m'ero segnato dopo l'intervento di Gino, perché mi era piaciuto molto come ha posto diciamo l'ultima domanda, e quindi anche un po', diciamo, mettendo in riflessione quello che è il movimento romano e le lotte che ci stanno intorno a Roma, quindi nel Lazio, eccetera eccetera, perché per esempio per me è stato il contrario l'avvicinamento a, diciamo, all'ambito del fare politica, movimento, che vengo appunto magari da fuori Roma, e adesso mi ritrovo da un paio d'anni invece a favorire solo a Roma. E ho cominciato magari a fare politica proprio per un problema che era quello ambientale della Sabina, dove tuttora c'è questo grandissimo atto speculativo, forse uno dei più grandi in Italia, che continua ad andare avanti, su cui noi sicuramente abbiamo perso, perché non c'è stata la forza, perché anche credo che un altro degli aspetti sicuramente sia del capitalismo, di chi decide di gestire le nostre vite, è quello di sapertele comunque sia organizzare, per quanto tu non voglia farti organizzare, in maniera tale da eliminare la capacità e gli spazi di resistenza e di lotta. Tant'è che nei territori che per esempio vivono di lato a Roma, che sono considerati dei dormitori per esempio per Roma, è impossibile trovarsi degli spazi di tempo per poter dedicarli appunto alla lotta, a salvaguardia anche di casa tua, perché tu a casa tua ci stai solo per dormire, per esempio. E tant'è che quello che succede per esempio a casa mia, da dove provengo, è che anche i pochi che siamo riusciti a coordinarci sono stati direttamente distrutti dall'amministrazione locale, dai minacci e tutto il resto. In più la gente che componeva questa lotta era molto piccola, neanche ci sta più in Sabina, cioè nel senso la Sabina sta qua dietro, stanno a fare questo ASI che è un polo logistico enorme fatto da capannoni 17 metri per metterci le merci e tutto il resto, che rimarranno vuoti. A me mi piace immaginare un giorno quelli saranno tutti occupati e ci sarà una Repubblica indipendente, però insomma non sarà così, evidentemente. Rimarranno vuoti e basta, perché è stato creato uno stile di vita anche di quelle zone, che in realtà sono zone con tutta una cultura su una serie di cose, la coltivazione degli uliveti, insomma la cultura etrusca, tutta sta roba qua, vengono distrutte per creare questo, dormitori per andare a lavorare a Roma, come se poi a Roma ci fosse questo lavoro. Non c'è sta a Roma il lavoro. E comunque, insomma, questo è l'aspetto del capitalismo, che è come il, faccio l'esempio, il fascista che ti devasta il motorino mentre tu non ci stai. Cioè, è uguale. Non fai tempo a girarti, devi girare e ti ritrovi quello che ti ha fatto, perché ha creato le condizioni per cui tu non potessi fare un minimo di resistenza, perciò le ha annientate alla base queste cose qua. Per questo, per esempio, l'intervento che faceva Gino sulla domanda, perché per esempio il movimento romano non si interroga su questa roba qua? È ovvio che è pieno di lotte che ci stanno a Roma, cioè tutti noi siamo stressati, abbiamo mille tic perché siamo appresso a mille lotte, però per esempio anche la Val di Susa penso sia nata così, cioè nel senso c'è stata anche un certo tipo di sensibilità, non solo dai valsusini, ma magari dalla città vicino che è Torino, un'altra serie di cose, e hanno fatto sì che poi in 22 anni e passa, insomma, c'è stata questa forza, non è che appunto nasce da 15 persone. E io mi sono immaginato, infatti mi stava a commuovere quando parlava Laura, perché mi sono immaginato proprio quei 15 persone che eravamo noi 3 anni fa, che eravamo 15 sfigati con mille problemi a organizzarci, e che poi però a differenza loro l'abbiamo accannato, e quindi, cioè, nel senso, questa è proprio la storia triste di tutta la cosa, per questo non volevo più intervenire, cioè, nel senso... Tutte cose fighe, Armessi lo spacca, invece noi è una storia triste. Però, per esempio, volevo riprendere invece il discorso finale, quello del, insomma, per fare la lotta non c'è bisogno solo del piombo, ma anche di quello. Io condivido questa espressione e penso in più che una cosa che noi ci abbiamo, nel senso, in mano adesso, è che è cambiato anche questo aspetto. Cioè, nel senso, per esempio, voglio prendere esempio le banche, ci si rende conto che in realtà devastare una banca è molto più simbolico che in realtà fare un'operazione, per esempio quella che ci insegna, so, Anonymous, che virtualmente attacca la banca ma realmente la devasta. Noi invece realmente la devastavamo, non abbiamo fatto un cazzo, cioè, per esempio. Questo è insomma il cambiamento, cioè il passaggio che c'è diciamo oggi, e su cui è figo riflettere, nel senso che apre una serie di cose, cioè apre una serie di pratiche che te devi inventare, perché è cambiato comunque sì anche il capitalismo, nel senso ci sono stati gli anni 70, ci sono state una serie di lotte, tantissime, anche diciamo volendo dei vittorie su dei diritti, ma poi la capacità di questo mostro di riadattarsi intorno a questa roba e diventa ancora più mostro, perché ha dimostrato questo aspetto diciamo quasi libertario, nel senso che te concede la flessibilità del lavoro ma nel senso che te lo precarizza, quindi tu non sei legato a vita però allo stesso tempo non ce l'hai, cioè nel senso, no? Questa finta faccia di quasi l'aspetto comunista del capitalismo, cioè nel senso proprio il potete di, no? Questi aspetti qua, e quindi su cui poi però invece è figo riadattare le lotte, nel senso allora a sto punto ci siamo già fatti fregare una volta, mille volte, anzi, magari si riesce a dare. Vabbè. Sì, allora io volevo fare una domanda a Laura, appunto del Comitato di Val di Susa, perché io sono in territorio, sto a Torbella Monaca e stiamo cercando con molta difficoltà appunto a contrastare il progetto del master plan e abbiamo avuto tante difficoltà, quindi la cosa che mi sono chiesta spesso, che per fortuna cioè, oggi ti incontro, magari ci puoi dare una risposta, appunto all'inizio di questa battaglia, siccome noi stiamo iniziando in pochissimi, quindi questa cosa che voi avete iniziato in pochissimi è emerso poi nell'intervento dei compagni di Napoli, appunto del compagno De Castelli, il fatto che appunto di iniziare porta a porta questo discorso, di iniziare a coinvolgere le persone porta a porta, quindi mi interessava sapere sia come avete iniziato nei rapporti con la gente e sia anche come vi siete rapportati rispetto alle varie forze politiche, che immagino subito avrete avuto questo problema, insomma questo era un aspetto che volevo capire. Io so che i compagni del Monte Amiano devono andare via a breve, non so se... Se vogliono rispondere alla domanda... Vabbè, io intanto vi ringrazio tanto perché per me è stata un'esperienza positiva. Vo nella Miata ancora più carico di prima, insomma. E so abbastanza carico, perché di carattere, di coso, insomma, combattenti. Però so più carico di prima perché capisco che c'è tante realtà e tante cose che nel mondo... E a volte anche quando viene la sfiducia, perché a volte viene anche la sfiducia, bisogna pensare appunto che c'è sempre gente che continua a lottare e che quindi non sei solo a fare queste lotte. Io penso però che, ritornando al discorso che sarebbe parecchio lungo, quello dell'avanguardia, delle cose eccetera, io sono d'accordo però che le battaglie si vincono con la gente. La Susa io la seguo e mi sembra che la stanno vincendo perché c'hanno la gente dietro. E ci hanno gli amministratori, quindi quel lavoro che qualcuno diceva, impariamo da quelli di Geova, chi sono quelli che vanno casa per casa sempre a rompere con gli omberi, impariamo da loro, bisogna fare quel lavoro, bisogna cioè non perdersi d'animo, andare dalla gente, perché se si coinvolge la gente riusciamo a vincere le battaglie, da soli si vince poco, anche in pochi, anche l'avanguardia non ce la fanno. Quindi io sono d'accordo a fare questo tipo, noi ci proviamo nella Miata, noi siamo più in difficoltà perché abbiamo questi amministratori, dice ma come fate? Siamo un gruppo di gente, prima di tutto siamo autonomi da tutto, perché a volte bisogna essere anche avere l'onestà intellettuale, perché questi comprano tutti, sta attento, perché se ti fanno un piacere al figliolo o al parente, quello poi ti dicono sta zitto perché a te ti siamo sistemato il parente, a te ti siamo sistemato la moglie, a te ti siamo sistemato quest'altro, quindi... Non è facile prima di tutto mantenere in questo mondo a volte anche un minimo di autonomia. Io me la so conquistata, penso con la mia vita, con le mie cose, non c'ho da rendere niente a nessuno, posso andare lì dal sindaco e dirglielo nel muso perché non mi ha fatto nessun piacere e nessuna cosa. Ci vuole un'onestà intellettuale, ci vuole la convinzione delle idee, ci vuole la partecipazione della gente e i nostri amministratori, vabbè, tanto c'è un sindaco che non ha firmato un protocollo per l'espansione della geotermia, che è guarda caso il sindaco del mio comune, perché sapeva che se lo firmava forse trovava pampe sui denti. Però è vero che altri comuni hanno firmato, perché con i soldi, io lo dicevo prima, si manda all'acqua per insomma, intendevo dire che l'hanno comprati purtroppo, e quando c'hai la povertà, quando c'hai paesi come i nostri di 3.000 abitanti, che le miniere sono state chiuse nel 76, avevamo 2.000 minatori noi, siamo stati la classe operaia, una delle più forti anche in Italia per le battaglie dei minatori. Vi ho raccontato prima l'episodio di mio padre, ma mio padre ha fatto 30 anni di miniera, io sono nato nelle lotte dei minatori, mi hanno forgiato. Dal 76 in poi questa economia è crollata, come se sparisse altro che la Fiat da noi, perché nei paesi di montagna c'è la monoeconomia, non c'è niente, non è che c'è da reinventarti. Allora noi abbiamo dovuto reinventarci questa cosa, però andare a dire che te devi costruire una cosa nuova, che devi costruire un avvenire basato sulle risorse, sul valore del territorio eccetera, è una battaglia che non è facile, perché la gente a volte cerca le scorciatoie, e i nostri amministratori hanno scelto le scorciatoie, si sono fatti illudere come Paperon de Paperoni, che vede altro che soldi, si sono fatti un po' illudere da soldi dell'Ene, l'Ene è poi riuscita a comprarli, e la regione toscana ci prende soldi, e qui c'è tutto un partito che manovra, perché bisogna essere chiari, perché il presidente della regione toscana è del PD, il presidente della provincia di Siena è del PD, il presidente della provincia di Grosseto è del PD, il presidente della comunità montana del versante senese è del PD, il presidente grossetano è del PD, il sindaco d'Abbadia è del PD, il sindaco di Piancastagnaio è del PD, il sindaco di Santa Fe è del PD, e voi capite che lì c'è qualcuno che manovra, e noi siamo a fare la battaglia controcorrente. Insomma, mi è sembrato che più chiari di così non si può essere, quindi noi non siamo messi dal punto di vista tanto facile, perché poi lì la gente spesse volte va a votare il partito più che non ci guarda tanto alle queste. Però è anche vero che abbiamo seminato tanto, abbiamo fatto tanto, e siamo fiduciosi che forse, se poi vorranno farle queste centrali, noi ci metteremo di traverso. Insomma, penso che un po' l'esperienza della TAV, non ci arriveremo a fare come loro, ma di traverso ci mettiamo uguale. Siamo un pochi, ma ci mettiamo di traverso, e se ci date una mano ci fate un grande piacere. Grazie a tutti voi, ma noi si deve rientrare. Grazie a voi, e do la parola a Laura se vuole rispondere. Sono arrivati alcuni compagni da che ci possono raccontare un po' meglio la battaglia di Terzigno. Non so, siete arrivati adesso, quindi immagino anche la difficoltà, no? Scusate la puntualità, buonasera a tutti. Veniamo da lontano. Ah, allora devo prima leggere. Chi me la legge? Laura, tu che sei più vicina, perché io ormai c'ho Terzigno. Ciao Moni. Benissimo, penso che le ricordo un po'. Allora, Terzigno, come abbiamo cominciato questa lotta? Sì, questa lotta di Terzigno è nata nel 2007. 2007, primo decreto Prodi che, come dire, in stato emergenziale decretava d'urgenza l'apertura di 4 discariche in Campania, tra cui anche quella di Terzigno, che è la discarica Sari, e che doveva essere, diciamo così, l'occupazione di un buco, un vero e proprio buco già pronto, scusate, mi avvicino il microfono, è la stanchezza, che andava, diciamo così, a riempire un buco, dicevamo, questa discarica, al fianco di una vecchia discarica utilizzata dagli anni 80 fino all'inizio degli anni 90, quindi per 14 anni, in cui già c'erano tipo 3 milioni di metri cubi di rifiuti, anche tossici, tipo pianura anche, perché poi, come dire, chi gestiva o chi ha gestito nella storia campana i buchi sostanzialmente è stata la politica, ma sostanzialmente la camorra, perché se per un periodo breve la regione è riuscita ad organizzare, no, la gestione dei flussi, anche l'utilizzo dei luoghi per sversare l'immondizia, per molti anni invece, tutti gli anni 80, questa gestione era tutta delegata ai privati. Quindi, essendo dei privati, i privati non solo gestivano il servizio di raccolta e anche quindi di sversamento, ma allo stesso modo anche, come dire, l'ubicazione, i luoghi, sceglievano i luoghi dove sversare, ma la maggior parte dei luoghi erano luoghi e terre, pezzi di territorio già appartenenti a famiglie camorristiche. A Terzigno questo pezzo di terra storicamente appartiene ancora, chiaramente adesso lo Stato se ne è appropriato, come dire, per quasi su capione, diciamo, ma con tutta l'immondizia dentro, al clan Fabrocino La Marca. che poi sono quelli, non so se l'hanno nominati prima, che gestivano anche il traffico di rifiuti dal nord al sud, quindi fanghi dell'Acna di Cengio e quant'altro. Diciamo, questo è il luogo dove, diciamo così, nel 2007 Prodi ha deciso di aprire questa mega discarica che doveva contenere per progetto iniziale 600.000 tonnellate di rifiuti. Siamo nel 2011, la faccio breve, e in quella discarica sono già stati depositati più di 3 milioni di tonnellate di rifiuti. È una discarica a fossa, il che significa che più immondizia ci metti, più se ne scende, perché, come dire, costruita anche male, quindi più appesantisci sopra, più, come dire, aumenta la capacità di contenimento, perché perdendo i liquidi, come dire, l'immondizia si stabilizza scendendo verso il basso, ed è uno dei tipi di discarica che difficilmente possono essere bonificati. Infatti la vecchia non è stata mai bonificata, è lì, come dire, inutilizzata dal 94, ma è bonificata, e adesso c'è quest'altra nuova che chiaramente, come dire, seppur richiama l'attenzione, ha richiamato l'attenzione delle popolazioni, e qui ritorniamo al territorio, Terzigno nel 2007 comincia a fare questa battaglia perché siamo avvicinati, perché non so come spiegarvi, avete presente il Vesuvio, che è completamente urbanizzato in tutto il suo, diciamo così, no, tutta la sua area, tutto il suo perimetro intorno, ed è un po' l'estensione, se non lo vede, della Napoli che è una città continua, no? Non c'è soluzione di continuità, cioè, se uno la vede da Napoli dice, boh, com'è piccola Napoli, invece secondo me si estende anche territorialmente, invadendo un po' tutto quello che è il Vesuvio, le pendici. E a Terzigno, che è un paesino di 20.000 circa abitanti, nel 2007 3.000 persone hanno fatto un corteo, chiese, associazioni, Legambiente, diciamo, la prima manifestazione del 2007, abbiamo saputo, io abito in un paesino vicino Bosco Trecase, che sta a un chilometro, ma se vi dico che non c'ero mai stato a Terzigno non dico una bugia, cioè, nel senso, voglio dire che è un paese che sta alle spalle, diciamo così, no, sarebbe bello vedere una cartina per capire come sono le dinamiche anche della mobilità, no? Lì spesso si vive guardando verso il mare, no? Piuttosto che considerare il monte, mentre storicamente la montagna invece dal punto di vista anche antropologico era una cosa che apparteneva alla cultura di quei territori. Oggi invece tutto l'orizzonte della mobilità si sposta verso il mare e verso Napoli, quindi la proiezione mentale delle popolazioni attuali è tutta legata a quel tipo di mobilità, che non considera più la montagna, che nel tempo è diventata per una parte una montagna finta, quasi un'icona solamente, perché tutti si sono dimenticati che quello è un vulcano ancora attivo, e quindi come se non esistesse. Dall'altro è diventato un parco nazionale, anch'esso solamente sulla carta, perché non ha mai funzionato come parco nazionale, e che per tanti anni è stato venduto come un volano per l'economia, e che invece per tanti anni si è riempito di immondizia. Quindi in sostanza questa è... Allora, 3.000 persone che si mobilitano a Terzigno, un paesino di 20.000 abitanti, da lì, come dire, questa prima manifestazione ha richiamato le attenzioni di chi più o meno militante era interessato, come dire, alla questione ambientale, perché, come dire, la questione ambientale gli cadeva addosso, no? Cioè, sono venuti qui sul mio territorio, sono un militante, no, da tanto tempo, però non è che ero attento a quello che avveniva anch'io, perché giustamente, ripeto, l'orizzonte mentale, la tua visione anche politica, no? Si proietta verso dove ci sono le contraddizioni più forti, e forse dimenticavi la più grande contraddizione, ce l'avevi sotto i tuoi piedi e nemmeno te ne accorgevi. Questa cosa ha fatto sì che scattasse una dinamica di attenzione maggiore, e da quel giorno, come dire, abbiamo iniziato ad impegnarci in questa vicenda. Da quel corteo sono partite una miriade di assemblee, chiaramente contro il decreto e quant'altro, e ci troviamo in un periodo che è successivo a le mobilitazioni di Acerra e contemporaneo e contiguo alle mobilitazioni di Serre, di Chiaiano, le prime mobilitazioni di Chiaiano, anzi successive a Chiaiano, Pianura anche e quant'altro. Cioè, il contesto è lo stesso. Da allora, dal 2007, iniziano le assemblee, ogni assemblea con occupazione della sala consiliare, perché diciamo che la prima cosa che emerge da queste manifestazioni è la complicità della politica istituzionale e non, cioè, nel senso, vuol dire, tutti quelli che erano anche dell'associazionismo, diciamo così, Legambiente, WWF, che per tanti anni ci avevano decantato sta palla di questo parco nazionale che non esisteva però nella sostanza, e che era invece comunque pattumiera, seppur abusiva e clandestina, e di una parte delle popolazioni, quindi delle amministrazioni, e anche, voglio dire, delle dei clan camorristici. È diventata invece, come dire, la possibilità su cui poter lavorare e iniziare ad inchiodare alle responsabilità questi che poi sono diventati per noi il primo, no? Soggetto contro cui confliggere, cioè la classe politico-dirigente e tutto quello che è la classe politico-dirigente, nella sostanza, fino ad arrivare anche a chi gestisce attività economiche sul Vesuvio, fregandosi di quello che può essere invece l'agibilità delle esistenze, diciamo così, quindi la qualità della vita e quant'altro. Sono partite le prime assemblee, mi ricordo le prime assemblee anche una difficoltà, come dire, di approccio per chi viene da una, no, sua forma mentis legata anche a delle dinamiche che a quei territori non appartengono, no? Diciamo, forse un po' di residuo storico torannunziata per le lotte operaie che aveva avuto negli anni 50 e 60, ma già dalla deindustrializzazione quell'area non viveva più un rapporto con le politiche, diciamo così, proletarie, quindi anche, no, di difesa dei diritti, eccetera. Nella scomparsa di questo, come dire, era un momento nuovo, eppure chi come noi si avvicinava da militante a queste situazioni si trovava in un momento in cui doveva rinnovare se stesso, perché aveva a che fare di nuovo con un territorio che paradossalmente aveva perso di vista. Quindi io posso dire che il primo approccio è stato un approccio, come dire, no, disarmante da un lato, ma come dire, che ti apriva subito ad una sperimentazione. Assemblee di 1000 persone, che non so se mi è capitato poche volte nella vita di vedere 1000 persone fare un'assemblea, tutti decisi a dire una cosa, che è la cosa più difficile del mondo, voglio dire, e in che linguaggio, perché pure questo poi è un elemento, no? No, non solo napoletano, non è solo napoletano, perché non stai a, cioè, no, stai a Terzigno, che dicevo prima, è un posto in cui tu ci vai una volta nella vita, ma forse nemmeno pure, no? E, stando lì vicino poi. E invece 1000 persone che hanno cominciato a dibattere, come dire, fermo restando, come dire, come uno dei primi punti all'ordine del giorno, la critica radicale, quindi occupazione dei comuni e critica radicale dei sindaci, no? Che sui territori non avevano vigilato affinché, perché poi, come dire, si combatteva col decreto, però poi piano piano si ricollegava a questo decreto del 2007 a tutto quello che poi c'era stato precedentemente nella storia, quindi c'è stato anche un recupero, no? Di quello che era stato il martirio di quelle terre, sostanzialmente. Quindi mi riapproprio di un pezzo di storia, perché mi sto riappropriando del mio territorio riconoscendolo, diciamo così. Mi riapproprio della mia capacità di fare articolare percorsi politici, perché mi sto riappropriando della mia identità come non solo, diciamo, il classico cittadino utente, ma come una persona che riesce, come dire, a articolare un po' un percorso di autonomia all'interno delle lotte, e lì c'era un percorso di reale autonomia, mettendo in mora dal primo istante tutta quella che era stata la classe politico-dirigente, a cominciare dai sindaci, che per noi, a differenza della Valsusa per esempio, sono diventati i primi, no, responsabili di una realtà, voglio dire, disarmante, perché i tassi, diciamo così, di mortalità per tumori e per leucemie lì supera il 400%, no, la media, diciamo così, anche regionale e quella italiana. E quindi la sperimentazione ci ha portato piano piano, come dire, a costruire un dibattito, delle forme di confronto, si è usciti dalle sale comunali per riappropriarsi del territorio, si è andati, ci si è spinti sul Vesuvio, dove doveva poi essere, diciamo così, cioè sul luogo dove creare infrastrutture affinché questa discarica funzionasse, poi se casomai fosse stata costruita in quel periodo, quindi fare un primo presidio. A quel presidio partecipavano mediamente, la sera, ogni sera c'è un'assemblea, 150-200 persone, quindi uscire dalle sale del Consiglio Comunale, spostarsi nelle terre, cioè sotto le viti, sotto i pergolati di vite, diciamo così, ogni sera all'addiaccio c'erano 150-200 persone a ragionare in assemblea. Manifestazione e quant'altro, capacità anche di articolare un percorso, diciamo così, che non guardasse solamente al proprio naso, perché, come dire, avere la capacità di entrare da militante all'interno di queste dinamiche ti permette non solo di apprendere tanto e conoscere il tuo territorio, ma di far apprendere a quella gente che c'è anche dell'altro oltre la propria terra, no? Quindi non cadere subito nella sindrome NIMBY. Forse in questo Terzigno è stato un po', come dire, no? È uscita preparata dall'attacco NIMBY, perché c'erano compagni, me compreso, che in quella situazione sono riusciti a trasferire subito che c'era già una rete regionale, che c'erano già delle lotte, che bisognava andare anche sugli altri territori, che se non si fa la discarica su tutto il territorio, ma si fa 50 metri, 100 metri, 2 chilometri, 10 chilometri, non ti cambia nulla dal punto di vista delle politiche generali di inquinamento e di distruzione che questo capitalismo, voglio dire, no? Sta mettendo in atto su quel pezzettino di territorio. E quindi, come dire, esce fuori subito, no, dal ricatto NIMBY non NIMBY, e articola subito una propria autonomia da questo punto di vista, confrontandosi a livello regionale e portando il livello regionale a confrontarsi a Terzigno, quindi un rapporto osmotico per certi versi, che ha aiutato a mantenere, come dire, la barra dritta. Sotto questa pressione popolare, diciamo che la discarica di Terzigno viene messa in naftalina, diciamo questi sono un po', come dire, sono tempi della politica poi, no? Come dire, cioè, si fa un progetto, poi se si vede che c'è subito una reazione, si cerca di farlo fino a quando si può, poi ci si ferma un attimo perché si capisce che c'è troppa, come dire, reazione. E quindi è rimasta in naftalina fino al 2009. Avevano trovato in sostanza altri buchi da gestire, tra cui Pianura e Chiaiano, che hanno aperto prima di Terzigno, forse Chiaiano in contemporanea, ma Terzigno un po' dopo, il 15 giugno del 2009, Terzigno. Però cosa succede? C'è un cambio di vertice, da Prodi arriva Berlusconi, nel frattempo Terzigno ha perso un sindaco, ne ha trovato un altro dopo un periodo, diciamo così, di paralisi istituzionale, perché non c'era un voto di potere a Terzigno, cioè c'è stato un commissario prefettizio, mentre subito dopo la prima protesta è stato eletto un sindaco di centrodestra, che poi è una cosa che sembra paradossale, però, come dire, forse la legittima opposizione al governo Prodi che aveva detto faccio la discarica, e sale questo famoso sindaco Auricchio, che è poi quello che ha venduto il simbolo, no? Si parla oggi tanto, no, di Berlusconi che acquista marchi, no? Il primo marchio l'ha acquistato da questo sindaco di Terzigno, Popolo delle Libertà l'aveva coniato, questo sindacchetto, diciamo così, che vende le noccioline, Popolo e Nucella si dice là, no? Cioè c'ha le piante di Nucella, fa il commerciante all'ingrosso di queste cose, e come regalo, giustamente per la sua, come dire, stretta alleanza, perché ha venduto un marchio a Berlusconi, da Berlusconi riceve il fatto che invece di una discarica se ne becca due, cioè dice, cazzo, siamo amici, cioè, c'ho tanto spazio, dice, ah cazzo, c'ho tanto spazio, siamo amici, invece di una discarica due, Cavasari e Cavavitiello. Sta cava Vitiello doveva essere, che è una vecchia cava abbandonata, 5 minuti, vecchia cava abbandonata, benissimo, boh, sta cosa, come dire, seconda discarica invece di una, si ritorna di nuovo sul posto, pronti e preparati da un biennio di, no, di attività politica sul territorio. E abbiamo un riscontro, diciamo così, ai primi tempi un po' minimo, perché Terzigno è scomparsa sotto la pressione della politica, del ritorno del sindaco, no? Siamo in centrodestra, molta gente lì è stata, come dire, ricattata, perché aveva partecipato alla prima protesta. Ma ricattata nel senso, sei commerciante? Sì, ma con insegna l'hai messa? Cioè, voglio dire, voi capite qual è il tessuto, no? Cioè, visto che c'è molta illegalità, come dire, quel momento in cui ti voglio ricattare ti faccio capire che un po' di legalità ci vuole, perché sennò tu, capito, perdi le briglie e le staffe, e quindi, come dire, quel minimo ritorna. Paghi l'immondizia? No, che cazzo ci fai sui presidi a fare le proteste contro le scariche, per dirne una. Quindi, no, quello è l'esempio. Però riusciamo, come dire, a produrre conflittualità e portare gente a discutere a valle di Terzigno, cioè nei paesi di Bosco Reale, Bosco Tre Case e Tre Case, e con una parte di Torre Annunziata. E paradossalmente con un lavoro di 3-4 mesi riusciamo a portare in piazza, diciamo che il clou, voi avete visto ottobre 2010 sostanzialmente, quello è il periodo più alto, cioè quello che mediaticamente è passato, ed era il periodo in cui, diciamo, da giugno ad ottobre, causa anche il malfunzionamento della discarica, che poi ha cominciato comunque a funzionare perché c'era una debolezza di presenza, nonostante si facevano i blocchi, venivano puntualmente, come dire, divelti perché c'era un rapporto di forza negativo. Siamo riusciti a portare ogni sera poi 1500 persone a presidiare sta cavolo di rotonda, e siamo riusciti a far passare anche delle indicazioni, poi perché poi la composizione è cambiata, il movimento è riuscito, come dire, bene o male a capire qual era, no, la possibilità di far politica lì sul territorio, e indicare quali potevano essere anche i percorsi per ostacolare sta maledetta, voglio dire, aggressione criminale militarizzata, voglio dire, perché poi l'esercito è arrivato, ha preso possesso del territorio con Berlusconi chiaramente, e abbiamo indicato che secondo noi, come dire, per combattere l'ecocido, abbiamo chiamato, cioè questo afflusso continuo di monnezza, non potevamo far altro che impedire l'arrivo della monnezza. Cose che trasportava la monnezza, i camion della monnezza, noi attacchiamo i camion della monnezza. Sfruttando la presenza di migliaia di persone in piazza, ci si organizzava per poter capire quali erano i momenti più o meno opportuni per avere minori danni dal punto di vista della repressione e dell'attacco quando attaccavi e maggiori risultati. E siamo riusciti ad avere grossi risultati, a prescindere dal, come dire, dall'effetto mediatico che fanno i fuochi d'artificio, no? Che poi sono passati come, no? Però fa parte del, come dire, del, dell'arma che tu possiedi, ma è un'arma territoriale, cioè lì si fanno i fuochi, quindi che cazzo. Per tornare a noi, per chiudere anche, questa cosa è durata, cioè noi siamo stati per 24 giorni, precisamente ottobre, 24 giorni tutte le sere a fare, tutte le notti a fare conflitto con 200 uomini a turno di polizia, 200, a volte anche 400 un'unica sera. Ci sono stati momenti anche di grossa tensione, voglio dire, momenti in cui la polizia, giusto perché vedeva che non aveva più un rapporto di forze per confrontarsi, no, sulla rotonda, perché noi avevamo i paesi a valle, quindi sapevamo, come dire, la via di fuga ce l'avevamo, sapevamo come attaccare, i tempi giusti e quant'altro, viste le perdite, ha cominciato ad agire mandando, come dire, invadendo i territori a valle, i paesi di Digos, che proveniva da più parti della regione e non solo, quindi persone che non conoscevamo chiaramente, ed è capitato anche un paio di sere che questi, armi alla mano, hanno minacciato persone di non partecipare più, no, proprio per strada, fermavano persone, li minacciavano con la pistola per dire: tu che cazzo ci fai qua sopra, da dove vieni, chi ti ha mandato, tu da domani qua non devi più venire. Una sera in particolare hanno pure sparato 16 colpi in aria per intimidire un gruppo di persone che voleva, come dire, difendere un compagno che era stato preso nel momento dalla Digos. Vabbè, diciamo, Poi sono andati anche casa per casa successivamente, diciamo, sono venuti precedentemente gli scontri e successivamente. Arrivo ad oggi, dove la protesta ha preso dei canali diversi, abbiamo vinto un pezzo di battaglia, non abbiamo vinto la guerra, chiaramente. Voi sapete, quando c'è una fase di passaggio la politica ritorna, no? Mentre è un momento buono, dove il conflitto ti aiuta a mettere con la testa nel cesso chi tutti i giorni svende te stesso, cioè la tua vita e la tua terra, in modo costante e continuo per dei profitti, direi anche minimi, no? Cioè, nel senso che non c'è sta grossa ricchezza che poi un sindaco in un territorio riesce a farsi su una discarica, no? Perché lì i profitti li fanno le organizzazioni mafiose e la politica è in alto loco, ma non un sindaco che piglia e becca 2 milioni di euro, perché 2 milioni di euro non sono niente oggi, confronto alle cifre che... No, dico, confronto alle cifre che tutti i giorni succhiano, no? Dalle nostre tasche, quindi voglio dire, cifre minime. E poi quelli vanno divisi tra una caterva di parenti, amici, affiliati, consiglieri, sottospecie, quindi vuol dire 2 milioni diventano tipo 200.000 euro al sindaco e il resto delle briciole a qualcun altro. Quindi stiamo parlando di questo. Abbiamo vinto un pezzo di battaglia, è arrivata di nuovo la politica, ha rimesso un tappo, diciamo, cerca di rimettere un tappo istituzionale, la lotta è stata un po', come dire, messa... Cioè, sconta anche un livello repressivo, arriva al livello repressivo e chiudo 2-2-1 il 4 ottobre, l'altro ieri, oggi quanto è 7, tre giorni fa sono arrivati 31 avvisi di garanzia a 31 compagni che hanno partecipato a quegli scontri, ma il problema è che, come dire, i singoli reati è sicuramente un attacco politico, diciamo così, no? Si legge subito, cioè, vi dico, una vecchia di 80 anni è stata denunciata perché ha buttato un vaso di fiori in testa a un poliziotto dalla sua abitazione. Ne dico una per dire, cioè, non stiamo parlando di reati, come dire, connessi, cioè, in questo caso. Però, come dire, c'è un attacco politico, perché, come dire, l'intimidazione funziona in questo modo, la pressione è anche questo. È in preparazione un altro processo a Nola. Ci hanno detto che ci sono altri 120 avvisi di garanzia che dovranno arrivare in queste settimane. A Nola è un processo un po' più complicato, c'è un processo tutto basato su intercettazioni telefoniche durate un anno, che riguardano alcuni compagni, diciamo, bene o male sono sempre stessi che stanno arrivando, quindi vuol dire, fra poco ci vedremo, meglio che ci vediamo oggi, può darsi che fra poco ci dobbiamo salutare da qualche altra parte, sperando di no. Però quello lì è un po' più complicato, perché riguarda, ecco, le intercettazioni. Cazzo, le intercettazioni sono un casino, cioè, un conto è, hai capito, rispondere di, ma un conto è andare nei meandri, quindi voglio dire, speriamo che questo cazzo Berlusconi faccia qualcosa su intercettazioni, cioè una cosa buona può fare pure per noi, non è che no. Cioè, no, garantismo, fa qualcosa pure per noi, nel senso, cioè, no, però scherziamo, nel senso, vabbè, chiudo dicendo, per noi, nonostante che adesso stiamo, tra virgolette, sotto la mannaia della repressione, perché c'è, e sapevamo anche prima che ci sarebbe stato un momento in cui, no, ci sarebbe stato un controattacco, pure perché durante tutti i 20 giorni, 30 giorni e i 4-5 mesi di alto conflitto sul territorio non avevano beccato nessuno. C'è nessuno, E non si incendiavano solamente i camion, ma anche le auto della polizia, le auto della Digos, i comuni, i portoni dei comuni. Quindi voglio dire, lì è stato un attacco generalizzato a tutto quello che era stato indicato come il male, diciamo così, che ti affligge tutti i giorni. Oggi chiaramente la difficoltà è, come dire, muoversi, no? Con questo orizzonte triste che ti si prospetta, con processi e quant'altro, soldi, che vabbè, queste cose dinamiche che conosciamo, però ci stiamo cercando di uscire fuori anche dal ecco qui uno spunto di riflessione. Stiamo come eravamo partiti, come dire, politicamente avanti dal punto di vista della sindrome NIMBY, che poteva essere un primo attacco e quant'altro, pseudo sociologico. Oggi siamo pronti per dire che quel movimento può andare oltre la lotta territoriale e connettersi con quella che è invece, e connettere quella che è invece in sostanza la lotta ambientale come una lotta anticapitalistica, perché l'aggressione ai territori è l'aggressione del capitale all'esistenza, è la precarizzazione non solo sul livello produttivo ma anche, come dire, nell'aspetto riproduttivo dell'esistenza. Quindi qui siamo attaccati dappertutto, cioè se io vado a lavorare e torno a casa mia e, come dire, fino a ieri mi diceva, no, il sistema, che andavo a casa e stavo tranquillo, bello, quieto, adesso vado a casa e trovo puzzramunnez otomor, cioè voglio ricere, ma allora tu mi accidi un coppa fatica, perché mi rompo culo un coppa fatica non pagandomi, poi ti fai pagare caro perché c'è una casetta sulla monnezza, però mi ammazzi pure con la malattia, e poi ti fa pagare caro una raccolta differenziata che non fa, cioè voglio dire, capavamo sempre e allora non arriva mai niente. Quindi ecco perché dicevo, almeno sulle intercettazioni qualcosa dobbiamo avere. E tornando a noi, il movimento è sempre una sperimentazione, però dico, no? Cioè è importante questo, cioè sperimentarlo, perché se non ti capita, però estenderlo il concetto, cioè non è vero che la lotta ambientale è una lotta particolaristica, cioè può diventarlo, no? Può diventare la cristallizzazione di un momento, e quindi richiudersi di nuovo in un comunitarismo, no? No, invece noi abbiamo direttamente e subito prospettato la possibilità che quella cosa potesse essere, come dire, il balzo in avanti per capire il territorio, perché era un territorio che non, cioè io pure da militante non conoscevo, cioè io sono stato in contatto con persone che vivono dei veri ghetti, le famose 167, che poi sono dei luoghi tipo Secondigliano, per dire, che sono presenti anche in quei territori, e che io, come dire, li consideravo come dei luoghi, no, da non agire, perché voglio dire, no, ma non agire perché non li agivo io, perché come dire, l'immagine è quella, e poi alla fine si trova a comunicare con questa gente che, anche se utilizza un linguaggio diverso, quando si trova a contatto con un luogo di sperimentazione, che è la piazza, che è il momento di conflitto anche partecipato, riesce a comprendersi anche se usa linguaggi diversi o proviene da pezzettini di territorio diverso. Ci si ritrova lì chiaramente, e si riesce anche a identificare un nemico di nuovo, cosa difficile oggi, no? Spesso che non si capisce dove cazzo attaccare, perché qua, come dire, tutto diventa, no, incorporeo, no? Spesso tutto diventa, qualcuno dice liquido, io non lo so se è liquido, però qualunque cosa liquida sono le palle, che sono piene, poi il resto, però allora questo è, allora sempre nella sperimentazione è la possibilità che ci siamo dati e la stiamo lavorando, cioè uscire fuori riconnettendo questo pezzo di conflitto con i conflitti che invece sono poi, ecco, la logica della generalizzazione, cioè è anche questo, portare e sportare la tua sperimentazione sperando che poi qualcun altro l'altra volta risponda, ma non è semplice, non è scontato che questo avvenga, però essere coscienti che, come dire, non è una lotta localistica ma una lotta contro un sistema affamatore che va fatto saltare, questo sì. Grazie, scusate la lunghezza. Oh, grazie anche all'intervento in extremis dalle battaglie di Terzigno. E noi vorremmo chiudere con un intervento della compagna che in questo caso ci ha raccontato un po' delle lotte del Notav, quindi lasciamo a lei la chiusura. Però vi vogliamo dire che, vabbè, c'è la cena per chi ha resistito stoicamente fino adesso ad ascoltare questo dibattito. E niente, dopo, nel frattempo cerchiamo di montare rapidamente il più possibile il proiettore per presentare un piccolo documentario e poi il libro della Brigata Callejera sulle lavoratrici sessuali. E va bene, passo la parola all'altra. Allora, rispondo alla domanda di prima cercando di essere velocissima. Come ti dicevo, non ho delle bellissime notizie per te. Allora, si iniziò veramente come i testimoni di Geova a dare buca buca, eccetera. Poi pensammo che la cosa migliore da fare era terrorizzare la gente. Quindi medici, serate informative con i dottori che spiegavano che cos'è il mesotelioma, come colpisce, fotografie di polmoni colpiti dal mesotelioma, eccetera. Ma se devo essere sincera, quello che veramente per noi fu la grande fortuna è l'attacco a Venaus nel dicembre del 2005. Se loro non avessero attaccato Venaus, noi saremmo ancora molto indietro nella lotta. Allora, hanno fatto questo errore, non hanno pensato che in un paese di confine i nostri nonni e i nostri padri ancora viventi avevano fatto la guerra in montagna, chiamati partigiani. La notte della ripresa di Venaus, noi avevamo della gente di 70 anni con sulle spalle il baracchino per dare il verde rame, pieno di benzina. Cioè, questo non l'avevano valutato. Da quel momento gli amministratori hanno cominciato ad interessarsi alla nostra lotta e penso per un motivo politico ci hanno appoggiato. Ma se non ci fosse stata l'occupazione militare, noi non avremmo avuto l'appoggio dell'amministratore. Infatti, finito il 2005, le cose si sono un po' appianate, gli amministratori sono spariti. Noi oggi lottiamo senza sindaci, lottiamo senza consiglieri. Ce ne sono 3. Su 35 paesi abbiamo 3 sindaci dalla nostra parte, tutti gli altri sono spariti. Io te l'ho detto, vedi tu, però insomma, no, per dirti che comunque c'è stata una storia dietro, no? Quindi sì, coinvolgere l'amministrazione sì, però noi abbiamo avuto la fortuna di essere stati attaccati militarmente, perché sennò secondo me non avevamo questo riscontro. Va bene, quindi siamo un po' stanchi, e non so se voleva rispondere, chiudiamo. I così fatti della montagna mettono sempre la pelle d'oca sui belli. E poi comunque tipo il fatto nostro, come abbiamo mantenuto ci ha creato un'aggregazione. Beh, nei casi di Terzigno, Pianura, cioè comunque là tipo noi siamo arrivati, c'è la gente, non l'abbiamo aggregata noi, c'è la gente. Nel senso, noi abbiamo trovato una situazione che ci piaceva, detto, vabbè, siamo con voi. Cioè, per il resto comunque pure la cosa che diceva lei, quella che hai chiesto pure tu, cioè penso che la presenza, pure il perseverare con un metodo proprio, che magari tipo io, i signori qua che sono andati via dicevano abbiamo provato in tutti i modi, referendum, petizioni, però nel momento in cui tipo io vedo che quella cosa non funziona, cioè nel senso è andare avanti anche per fatti miei, esulando dalla pratica più istituzionale, cioè quindi come hanno fatto appunto a Venaus, che tipo a un certo punto hanno appunto contrattaccato e riconquistato il cantiere, la presenza, cioè penso alla presenza fissa con un metodo proprio che poi può dare continuità a un certo tipo di pratiche e un certo tipo di lotte, non tanto cercando di aggregare gente al metodo mio, comunque tipo fare proselitismo che è una cosa che non mi interessa, quanto tipo sperare, tipo fare, spingere in maniera tale che ognuno autonomamente, senza nemmeno venirmi a cercare, prenda iniziativa partendo con appunto con la testa sua e facendo, seguendo il metodo che più gli aggrada. Più grazie, ringraziamo ovviamente i compagni che sono andati via, i compagni che sono venuti da giù, da su, insomma, che hanno arricchito notevolmente il dibattito, che era proprio quello che volevamo, perché dal punto di vista adesso e chiudiamo con questo. C'era l'ultima domanda, che è dall'auto-organizzazione all'autonomia. Non rispondo, non vi preoccupate. Come fare? Io penso che il contributo che possiamo dare dal Messico in realtà è proprio quello di come le lotte auto-organizzate, che in realtà hanno pratiche di lotta molto simili a quelle che si danno nel territorio anche nella penisola italiana, in realtà abbiano fatto, alcune di queste lotte abbiano fatto un passo in più, che è quello dall'auto-organizzazione all'autonomia, cioè dall'autogoverno del proprio territorio, l'autosufficienza in tutti i sensi, politica ma anche alimentare e molto pratica. Alcuni dei nostri progetti, come Piattaforma Internazionalista per la Resistenza all'Autogestione Tessendo Autonomia, tutto questo che significa pirata in sigla, che è lo spazio di collettivi con cui appunto abbiamo i progetti in Messico, o comunque siamo parte di alcuni progetti che non tutti li abbiamo creati noi, solo apportiamo con qualcosa, e vengono narrati nel video che manderemo dopo la cena. e là sono momenti in cui le lotte auto-organizzate cominciano a costruire l'autonomia. A noi ci piace dire che l'autonomia si costruisce attraverso l'autogestione. Speriamo che quindi il contributo da parte del Messico possa avvenire attraverso questo video, e vi ricordiamo che anche là ci sono i materiali, quindi abbiamo 6 minuti netti per cenare e poi ci vediamo in video. Grazie a tutti, a tutte.